Allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ma veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Ma perché un programma di merda, dai, questa zanzarina? Mo ti spruzzo l'autan, Allora, Davide, Salvini sulla questione degli arresti in Lombardia, dove stanno hanno arrestato il vicepresidente della regione, indagato Garavaglia e altri ancora per le questioni della sanità, e diventa improvvisamente garantista. In realtà lui non è sempre stato un po' sulla giustizia. Sì. Però diciamo parla... che della giustizia se n'è sempre fottuto, tranne quando si tratta di difendere Stacchi o quando si tratta di difendere... chi spara, quando si tratta di difendere, insomma, questa roba. Vabbè, qua, insomma, cosa dice Salvini? Dice che è tutta una manovra, una sì. giustizia orologeria per colpire la giunta in Lombardia, per fermare l'ascesa della Lega. Sì. Della Lega. Io mi autodenuncio perché anch'io ascolto, incontro, aiuto e giro lettere e telefonate di decine di associazioni di volontariato. Questo è né più e né meno che un attacco politico alla regione meglio governata d'Italia, magari per nascondere i problemi del PD, delle cene di Marino e di Renzi. Cioè, secondo Salvini, le procure avrebbero ordinato l'arresto di Mantovani un anno dopo la richiesta ufficiale da parte dei pubblici ministeri, le indagini su Garavaglia, che è anche lui vicepresidente, se non sbaglio, assessore all'economia della Lega, e altre persone ancora, per coprire la vicenda Marino. Adesso, sì. Questo francamente, questo può essere derubricato, anche se sono le 18:37, con una parola unica. Anzi, con due parole, sì. E si derubrica così: puttanata galattica. Puttanata galattica. E intanto l'ex presidente della Lombardia Formigoni dice: che ha detto il Celeste? Il Celeste, il cattolico Celeste. Dice cosa che un giornalista del Corriere della Sera, sì. Adesso dico il nome che non dirà niente a nessuno, beh, uno che si occupa di Milano, di questa cosa. Come, qua. Un vice direttore. Vabbè, ma chi se ne frega? La gente non lo sa. Si chiama Schiavi. Dice: sì, Schiavi, grande. È un Schiavi. Pezzo di merda. Così lo definisce. Formigoni. Non è vero. Sì, senti. Ma quando, dove l'ha detto? Senti, stai all'area che tira stamattina. Ma senti. Dai. Oggi Giacomo Schiavi sul Corriere scrive: l'arresto di ieri è in continuità con la scia di intrighi affaristici lasciati dalla giunta Formigoni. Schiavi è un pezzo di M, ma voglio dirlo, sì, nel senso che non c'è questa solidità di argomenti che Schiavi dice, perché Schiavi dovrebbe dire... Poi si è pentito, ha detto: mi scuso per quelle vite. Sì, ma l'ha detto eccetera, con una eccetera. Freddezza, cioè non era nella concitazione di un dibattito. Dice che... No, ma era freddo, cioè il tono di voce, non l'avevo ascoltato. È un pezzo di M, non ma ha detto in modo merda, freddo. Pezzo di M, però ma uguale. A uno può sfuggire nel corso di una battaglia, no? Quando stai litigando. Ma qui invece con lucidità assoluta. Sì, sì, sì. A freddo. No. Però... Però. Il numero uno oggi è un altro. Il numero uno è un altro, caro Parenzo. Queste sono cose politiche. Adesso sentiremo pure quello dei grillini, Castaldi, che ha detto che c'è la massoneria che ha fatto la riforma del Senato, no? Accordi massonici. La Boschi si è incazzata e ha detto: massone a tua sorella, lo dici. Ma queste sono tutte cose che succedono in Parlamento, di cui la gente non fotte un cazzo. Niente. Il vero personaggio mitologico, direi, è un signore che lavora a Sky TG24, ma era un estremista di sinistra qualche anno fa. Beh, sì, ma io non lo dico in senso negativo, era un militante dell'estrema sinistra che si chiama Pio D'Emilia. Bene, Pio, ma quello col barbone. Ma quello col codino, quello che sta raccontando questo esodo dei migranti da mesi. Raccontava. Certo, ora si è trasferito in Corea nella del Nord. Ridente Corea del Nord. Corea del Nord. Ma quello è un grande compagno, quello. Sì, è un compagno, un grandissimo compagno che dopo averci raccontato le gesta dei profughi, no? Era un proprio da militante più che da comunista. No, li seguiva a piedi. Sì, proprio. Ma partecipava al loro dolore. Sì. Il compagno Pio D'Emilia si lancia in un grande elogio della dittatura nordcoreana. Nella TV del signor Murdoch, per giunta. Esatto. Questo è un dettaglio da dire. È che nella TV dei padroni della destra più eversiva internazionale, lui difende il Corano. Razzi non potrebbe fare di meglio. L'amico Antonio Razzi non potrebbe fare di meglio. Non so se lo faccia sul serio o per finta, Razzi. Sicuramente il signor Pio D'Emilia, il compagno direi Pio D'Emilia a questo punto, lo fa con convinzione, secondo me. Cioè, lui è veramente convinto di certe cose che dice. Per esempio, che il turismo è sicuro e che non c'è criminalità in Corea del Nord. Beh, è vero, però. Questo è anche lo dice anche. Come in tutte le dittature. Ma lo dice con enfasi, sicuro, con una grande sicumera, senti. Una delle risorse potrebbe essere, tra l'altro, quella del turismo. Questo è un paese molto bello, è un paese, tra l'altro, assolutamente sicuro per i turisti, non c'è minimamente criminalità comune. Non c'è criminalità comune. In Corea del Nord è aumentata l'offerta di street food. L'offerta dello street food è aumentata sempre rispetto al passato. Per esempio, l'ultima volta non c'erano questi bei polli allo spiedo, vedete, tagliati le cosce, polli interi, l'anatra. E poi questi che sono dei dolcetti, che cosa c'è là dentro? Puoi chiedere? Fagioli di soia. Fagioli di soia. Traduttore spia del regime comunista, insomma, dai. Sì, un uomo del regime sicuro. Messo lì. Dai che il traduttore. Però adesso al di là del compagno. Aspetta. Vabbè. La Corea del Nord è un paese in crescita, cioè con Kim Jong-un, compagno c'è stata una grande crescita economica, ragazzi, ma vi assicuro che l'amico Antonio Razzi non riuscirebbe a fare di meglio a favore della Corea del Nord. Lo fa invece il corrispondente, l'inviato della televisione di Murdoch, del signor Murdoch. Per quanto riguarda Pyongyang, l'abbiamo trovata davvero cambiata, molte più macchine, negozi, palazzi in costruzione, palazzi appena costruiti, insomma una città che testimonia di un paese che è in assoluta evidente crescita. Assoluta ed evidente crescita. Ah, stupendo, ragazzi. Però d'altra parte quello si trova là. È stupendo, dai. E che deve dire? È nel cuore del regime. Cioè... Ma è stupendo, è meraviglioso. Però... Sì, ma se avesse detto che è tutto un disastro, che i dissidenti politici vengono rinchiusi in carcere. Ma chi gli dice qualcosa, dai. Qualcuno dopo 30 dice... secondi lo prendeva e lo portava in gattabuia, forse. Grillo su Roma, Parla Grillo su Roma, non solo su Roma. Sentite. Fondamentalmente io, Gazzaleggia, tutti quelli che vedete qua, siamo dei disadattati, quindi non vogliamo uniformarci al mondo, il mondo deve uniformarci a noi perché siamo disadattati, complessati, pieni di robe, di idee da mettere a posto, è questo, il mondo va avanti col disadattato, non col contento, felice e il sorriso sulle labbra, non cambia il mondo uno così. Ma questa non è male come cosa, cioè il mondo va avanti grazie ai disadattati. Beh, cioè ai matti. Forse. Però non è del tutto sbagliata come cosa, Non è del tutto sbagliata. Ci avete preso per il culo per anni sugli scontrini a noi, se vi ricordate, i grillini, gli scontrini, ha fatto lo scontrino, quello là che gli cadeva lo scontrino, ve lo ricordate? Adesso siete accaniti sugli scontrini di uno. Ma guardate, datevi una regolata. Su questa ha ragione Grillo, veramente. Quando poi torno sul click, sul click, cioè sulla democrazia per il click, cioè il movimento scomparirà quando decideremo con un click. Quando si rompe il computer. Quando tutti i cittadini si saranno fatti Stato e diventeranno lo Stato, i cittadini potranno votare, tu e tu potremo votare da casa con un clic e fa e dire la nostra opinione su qualsiasi cosa, il movimento cesserà di esistere. è normale. Ma che vuol dire? Cioè, che vuol dire? Cioè, i vecchi come votano? Quelli che non usano il click? Tu, I vecchi come votano? Ma quelli... sono? I vecchi sono morti, sono vecchi, sono morti, no? Cioè, non devono votare. Ma non devono votare, i vecchi vanno ammazzati da bambini, evidente. Bueno, ma se uno è vecchio, che cazzo fa? Costa e compra la pensione. Sull'iPad, tu fai tutto. Ma se un vecchio non può usare l'iPad, come fai? Ma chi è il vecchio? Il Sole 24 Ore, vecchio. Ma sì, d'accordo, il vecchio è il Sole 24 Ore. Voi, tutti, voi, morti, Buccer, questa gente qua, finita, con capito, il computer voti. Ma se uno non lo può usare, che fa? Non lo usa, muore, è finito. Ma com'è finito? Muore, non serve, vuol dire che è inutile, non funziona. Cioè, un essere uno che non usa il computer... Non è un essere umano, finito, non serve a niente. Risparmi, è così l'economia funziona, cioè, in Germania. Tanti vecchi rubano pensioni, li uccide e risolto il problema delle pensioni con un click, li puoi uccidere con un veleno, morti. Cioè, tu dici, se uno non usa il computer è un essere inutile. È un essere inutile, la società, quella giusta, vera, in Germania è così. Ma no, non è Hai vero mai che... visto dei vecchi in Germania? No, ma sono morti. Cioè, li ammazzano tutti perché... Li ammazzano, hanno pratiche antiche. Ma questo è vero, ammazzavano un po' di gente. Conoscono, li caricano su dei pullman, dei treni. No, funziona così in Germania. Ma signor Grillo, mi pare un po' mi pare una cosa assurda. Con Casaleggio l'abbiamo progettato, scritto. No, ma questo, ma mi pare una cosa assurda che deve scomparire chi non sa usare il computer. Scompare perché non c'è, non è rappresentato, è finito, è morto. Quando farei tutto col computer? La spesa, le elezioni, scrivi le leggi. Ma se uno non lo vuole usare? Muore! Fine, risparmi! Ma ho capito, ma altro che spending review, Cottarelli, non serve. Cioè, basta ammazzare un po' di gente. Con quel nome idiota, ma chi è? Good gel, ma sì, soltanto gente come voi lo può invitare a una radio come questa. Ma no, veramente non e ancora, qua. Ma ha senso che Confindustria abbia una radio per voi? Ma che dove non c'è da nessuna parte al mondo? Forse da nessuna parte al mondo esiste che una Confindustria come la radio del sindacato. Ma qualcuno ascolterebbe mai la radio della CGIL? Morto, un mondo vecchio, finito. Traffico veicolare. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, queste sono cose che davvero fanno impazzire di rabbia. Quest'uomo che sentirete adesso, intervistato da Ballarò ieri sera, è un ex parlamentare europeo, ex parlamentare nazionale ed ex consigliere regionale. Si chiama Tatarella, è un figlio d'arte, anzi è un figlio, in realtà è un signor anziano che è il fratello di Tatarella, quello più famoso, molto di Pinuccio, voi. Del grande Pinuccio Tatarella. Alcuni di voi lo ricordano, non tutti, no, quelli, più, tutti giovani, lo ricordano, quelli tutti. Più giovani sicuramente no, e sono tanti per fortuna quelli che ascoltano ignoranti. Questa trasmissione. No, no, ignoranti non che lo sanno, no, chi era Pinuccio Tatarella. Comunque, lasciamo perdere Pinuccio Tatarella. Questo signore si chiama Tatarella, Salvatore Tatarella, ed è stato, ripeto, ha avuto 3 mandati in 3 istituzioni diverse e prende 3 vitalizi, già questo è strano, per un totale di circa 13.000 lordi al mese, 7.200 netti. Sì. Allora, questo signore cosa dice? Dice che lui non può abbassarsi, questo non può ridursi, non può rinunciare a questo vitalizio. Non può. Allo stato delle cose, io per una serie di impegni pregressi e per la mia situazione personale non riesco a fare l'atto generoso che lei mi chiede. Perché? Perché non può rinunciare al vitalizio? Adesso lo scoprirete, perché da 7.000 euro secondo lui bisogna togliere una cifra, ma non è che bisogna toglierlo perché l'ha deciso la legge, perché l'ha deciso lui di fare un mutuo da... Però da 7.200 deve purtroppo detrarre. Cosa? Se sono netti? Un mutuo che io, avendo comprato la casa, dovendo avere una casa anch'io, l'unica, e deve trovare 3.200 euro che se ne vanno puntualmente ogni mese. Ho capito, ma sono sempre 7.000 euro, rimangono 4? Io non... Circa 4. Circa 4. Meno 4. Non solo ha un mutuo di 3.200 euro al mese, dunque secondo lui bisogna sottrarre, ma perché bisogna sottrarre? Uno può anche decidere di avere un mutuo da 1.000, da 500, da 700, ridurre la metratura della casa. No, una casa da 3.200 con un mutuo di 3.200 al mese, va bene. Ma c'ha anche 2 figli disoccupati, c'è il novello Chetto. Comunque 4.000 euro al mese non sono pochi, poi lei continua a fare l'attività da avvocato. Con grande difficoltà. Però il suo studio avrà avuto un intoio. Reddito zero. Io ho ancora 2 figli che non lavorano ancora. Ma quanti anni hanno questi bambini? 30. E come fanno? 30 anni non lavorano? Non hanno ancora trovato un'occupazione soddisfacente. Il problema della disoccupazione tocca a tutti, anche i cosiddetti privilegiati. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia. 800 24 00 24. Parenzo, so che dà ragione a Tatarella, eh. So che dà ragione no, a Tatarella. No, sì, sì, sì, sì, ragione, sì. No, però lo sì, capisco. Lo capisci, cosa... lo capisci. Esatto, io non sì, lo capisco. Ragione, tagliare ragione. Subito tutti i vitalizi, Paolo, anche a quelli che ce l'hanno da 30 anni. Non è che esiste questa cosa, cioè, di diritti la acquisiti. La tua disumanità, no, non è il cinismo. Ma scusa, ma non ho capito, ma quelli che perdono il lavoro, quelli che perdono il lavoro. Ma non è che ti hanno un paracadute. E allora, dopodiché, questi qui che hanno sempre fatto politica tutta la vita, non è una colpa aver fatto politica tutta la vita. È un diritto acquisito che è sbagliato. Questi secondo me, perché fatto, il vitalizio è sbagliato. Va bene, è sbagliato, infatti, e lo allora hanno, e infatti lo hanno modificato. Ma questi, no, lo devono togliere. Ma questi signori che hanno vissuto per la politica, ma anche quello che lavora, che poi perde il lavoro, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Perché questo qua deve avere ancora un privilegio che è comunque un privilegio? Perché e i contributi, hanno cambiato la legge. Ma i contributi per i vitalizi sono sempre stati allora, soldi nostri, se li sono accomodati come. No, ammazzateli. È come se perdessi un lavoro. Da questo momento in poi il vitalizio non c'è più. Purtroppo, infatti, fare? Succede a tanti, ma se quello ha pagato ridotto alla media delle pensioni degli italiani. I contributi li ha pagati, certo, meno di quello che paga. Sono soldi nostri, se li sono decisi loro. Non che sono soldi nostri. Vabbè, fammi sentire Paolo da Napoli, dai, 800 24 00 24. Paolo, dimmi, Paolo. Buonasera, Luciani. Vai, Paolo. Premesso, io condannerei, giudicherei questa cima di gioielliere per duplice omicidio. Ah, stai omicidio. Parlando di Ercolano tu, sì? Sì, sì, sì, duplice omicidio proprio, gli ha sparato. Ma che vuol dire gli ha sparato? Paolo, ma non dire stronzate, si è difeso da un tentativo di rapina. Con no, due... non è così, guarda Cruciano, una settimana prima c'era stato che un poliziotto aveva sparato a un ragazzino, no? Sì. Che stava scappando con le moto. Il poliziotto gli ha sparato nelle ruote e ha buttato giù. Ma quello non è un professionista, è un signore che ha una pistola per difendersi. Paolo, tu sei... Sì, però gli ha sparato mentre che andavano ma via. Ma tu stai dicendo le stesse cose che dicono i criminali, la famiglia dei criminali. Non cioè... è... Guarda, anche tu stesso hai detto una cosa giusto, chi va per queste settimane avanti bicipiglia, il rapinatore sa mente nel proprio conto che può morire. E allora? Perfettissimo, però scusa, nel momento in cui viene ammazzato deliberatamente, questo se ne stava scappando. Cruciani. No, non stava scappando, amico mio, no, erano lì, lui si ha reagito e ha sparato ai due. Vabbè, allora tu li difendi, cioè, no, dici che... No, per l'amor di Dio, ma un momento, non difendo questo. Tu stai dicendo che è stato un omicidio. Sì, duplice omicidio. Duplice omicidio, vabbè, la pensi omicidio. Come la famiglia dei criminali, va bene, come la signora, come il fratello, che, cioè, quelli che vogliono ammazzare il gioielliere, va bene, per carità. Ma ti spiego, ma scusa un attimo. Vabbè, allora, Paolo, dopo... Io non penso come lui, invece, in questo caso. La zanzara sta diventando, no, Texwill, che dove la gente si deve armare, uno si deve difendere, non offendere, se tu ti porti, no. Ma non è che in quel momento ragioni, dai, su... Indubbiamente non è in quel momento. Vabbè, Paolo, ragione. Che vuoi dire di altro? Vuoi dire un'altra cosa? Sì, volevo dire complimenti di questa lista che nasce la Zanzara, che mettete a Razzi e a Bonanno come... No, quelli sono impegnati in altri partiti, Paolo. Ci saranno controlli serissimi, ci saranno ad esempio... Un'altra cosa, a proposito della Cambogia, no? La vorrei riportare... No, la Corea del Nord, non la Cambogia. La Corea del Nord, scusa, ma la confusione. Allora? Vorrei riportare al signor Parenzo la stessa cosa di Israele. Se uno in Israele gli dice che è uno stato d'apartheid e tutto, non lo mettono in galera. Bah, non lo so. Israele, non credo. Vabbè, Giovanni Salerno, vai, Giovanni, dimmi. Ciao, Valenzo. Cruciale, ciao. Scusami. Dimmi. Io volevo solo dire una cosa, volevo ricordare a questo intelligentone che hai a fianco. Sì. Che mi sta pure bene che lui la possa pensare così su Salvini, perché grazie suoi, insomma, lo dice lui, lo dice un ignorantone, va sì, bene pure grazie, così. Certo. Vabbè, gli ignoranti parlano in questo. Sì, però, certo. Però vorrei capire una cosa, se non sbaglio fra un po' ci saranno le elezioni a Milano, sì. Ci saranno le elezioni a Roma. E dunque Roma, tu sei d'accordo con Salvini che è stato tutta una giustizia, si è messa in modo... Crucià, questa cosa va avanti dall'era di Berlusconi, non ce lo dimentichiamo. Cioè, quando inizia un periodo elettorale in Italia, non capirlo. Ma guarda che la magistratura ha messo sotto indagine pure De Luca a Napoli, appunto. A Salerno, sì, eccetera, eccetera. De Luca dove sta però? De Luca dove sta? Nel sta PD. Facendo il governatore, sta facendo il governatore. Fermo. E Maroni dove sta? Fermo, giornale radio. Beh, amici miei, siamo al flop. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Peccato, siete di una ignoranza sesquipedale. Certo, perché non studiate un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Allora ragazzi, questo è un appello agli uomini di buona volontà di Vicenza o della provincia di Vicenza, per andare a cercare e portare ai nostri microfoni il signor Mattielli, Hermes Mattielli, un signore che pur menomato ad una gamba ha sparato a due ladri, tra parentesi rom, che sono entrati nel suo magazzino ed è stato condannato a oltre 5 anni per omicidio colposo, quello che è, tentato omicidio, e a risarcirli questi due signori di 135.000 euro, in una, no, semplicemente per parlarci in un'intervista. Lo hanno beccato, pare che sia solo, disperato, senza famiglia, senza telefonino, senza nulla. È un dramma, d'accordo, sì. Benissimo, questo in un'intervista al Corriere del Veneto ha detto: sono stato condannato, questa è una mafia legalizzata. Io voglio leggere questa intervista: una mafia legalizzata, non ho altre parole. Tutelano i ladri, mica gli onesti cittadini. Speravo in una soluzione? No, non ci speravo, l'avevo già detto che della giustizia mi fido poco, non ci speravo, perché, come si dice, con omagna canno magna, leggilo tu, canno magna can, se sempre la solita storia, questo si capisce. Ercan non magna arcan, sarebbe il cane non mangia il cane. Risarcirà i 135.000 euro, e come, con quali soldi, non so proprio come farò, è una cifra che non possiedo assolutamente, non ho più nemmeno un lavoro, lei lo sa, vero, rivolgendosi al giornalista. Non ho più il deposito di ferro vecchio, sono senza un lavoro, disoccupato, e per colpa loro mi hanno fatto chiudere l'attività, 9 mesi di sequestro del deposito, un verbale per il materiale in giacenza da oltre un anno e per presunto inquinamento. Oggi sparerebbe di nuovo? Sì, in fin dei conti non sono mica io quello che va a rubare in giro. Capisco l'avvocato molto gentile che abbia avuto i nostri microfoni nei giorni scorsi, capisco la giustizia, i giudici, la legge. Però, sinceramente, sti cazzi di come sono finiti questi due rom ladri. Cioè, questo ha sparato, ha reagito in maniera certamente eccessiva rispetto ai canoni normali di come è impostata la legge adesso. E come vorresti tu? Rispetto ai canoni di quel che tu e gli altri simpatici Rangers, qua, no, non sono Rangers della Lega o altri, questo o non solo della Lega, questo va assolto, anche se ha reagito in maniera scomposta, è chiaro che è una tragedia quella che sta vivendo questo signore, che non ha lavoro, che è un povero Cristo, che si è soltanto difeso. Ma noi non parliamo di questa cosa qui, stavamo parlando di un'altra cosa, dell'eccesso colposo di legittima difesa. Vabbè, lo so, tu vorresti giustificare la pistola in generale, la pistola facile, no, il crivellamento, la reazione anche eccessiva, sì, la ma capisco, ma no, devi dire tutto. Allora sì, puoi, se fare, uno crivella di colpi due ladri, fa bene, lo puoi inseguire fuori, cioè puoi, devi allargare per essere le tante sicuro mille. Per essere sicuro che non ammazza te, i tuoi figli, e non ti ruba qualcosa, lo deve anche calpestare, no, che c'entra, deve adesso non fare parodia, non è parodia, è dai. Spingere avanti il tuo, mettergli esattamente la pistola alla tempia, no, e sincerarsi che il cervello schizzi fuori. È diverso. Questo non c'è neanche negli Stati Uniti. Neppure negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti esiste il reato simile a quello che c'è. Non ho detto questo. Adesso è facile, perché la gente che chiamerà è evidente che starà dalla parte di questa persona. Alessandro dalla provincia di Lucca, vai. Sì, buonasera, grazie. Dimmi. Per l'opportunità. Niente, ecco, uno mi dice: Mattielli lo trovi in zona. Aspetta, Mattielli lo trovi in zona Arziero. Allora, ragazzi, andate lì e portate i microfoni. Sto Mattielli, fateci parlare con questo Mattielli che è scomparso. Si è presentato solo in tribunale l'altro giorno e che si sa dove sta, ma non ha telefonino, non c'ha nulla, eccetera. Lo beccheranno le telecamere. Ma voi dovete fare i nostri inviati. Andate ad Arziero e beccate questo Mattielli. Dai, noi siamo dalla parte sua, peraltro. Io almeno, Parenzo un po' meno. No, ma non è parte. Alessandro. Io sono dalla parte di questo Mattielli, che devo fare? Fai le magliette anche con lui, fai una raccolta di fondi. No, no, le magliette. Fallo candidare con la Lega. No, la lista Zanzara. Alessandro, provincia di Lucca. No, la faccio, guarda, la faccio io una maglietta. Tra l'altro le stampo, ci scrivo rivolta popolare contro i vitalizi dei politici. Come dovrebbe essere organizzata questa rivolta popolare, Alessandro? Rivolta popolare. Una marcia su Roma. Già qualcuno l'ha fatta qualche tempo fa con un discreto successo, perché poi è durata 20 anni, diciamo, la cosa. No, ma qui basterebbe 10 anni, ce ne vorrebbero 3, uno per il nord, uno per il centro, uno per il sud. Cioè, non ho capito come si dovrebbe organizzare questa marcia su Roma, Alessandro, non ho capito. Con le armi? Con le armi? Se uno ha le armi, viene con le armi. Se uno ha una forca, viene con la forca. Se uno c'ha una mazza da baseball, cioè la forca, la forca, con la mazza da baseball, cioè se sono un ex giocatore di hockey su pista, porta la mazza di hockey su pista, perché quella gente lì, se non viene trattata così, quelli fanno sempre quello che cazzo mi pare. Cioè stai parlando dei politici, stai parlando dei politici. Io sto parlando dei politici, io non dico che tu sei incazzato per aver sentito questa storia dei vitalizi, tre vitalizi, i figli di 30 anni, 7200 netti, eccetera eccetera. Ecco, io non dico che devono morire di fame, ma non è possibile. No, tu dici che devono morire proprio, perché dici con le mazze da baseball. Ognuno porti quel che può. Scusa, altro che morire di fame. Morire, punto. Mi sembra. No, io non dico che devono morire. No. Ma se hai detto che ci vuole la rivolta popolare con le armi, la marcia su Roma. Le armi. Una rivolta popolare, una marcia su Roma. Ho capito, allora tu non vuoi. Allora, scusa. Scusa, Alessandro, tu dici che tu dici non voglio che muoiano di fame, vuoi che muoiano, punto. No, ma ascoltami, allora il problema sta qui, perché qui le cose si sono rovesciate, cioè noi abbiamo timore di quella gente lì, ma nelle timore di che cosa? Di quella gente lì chi? Dei politici. Sono i politici che devono avere timore del popolo, perché le leggi timore del popolo. Qui invece le leggi le fa il popolo. Ok, Francesco da Padova, vai. Francesco. Sì, ciao a tutti. Dimmi. Volevo solo capire una cosa. 3-4 anni fa a Milano è successo un episodio analogo. Penso sempre un gioielliere che ha ammazzato due. Sì, ma ne sono successi diversi in tutta Italia, mica solo uno. No, vabbè, e mi ricordo che Cociani era totalmente contro, che diceva: ma a Milano non può esserci il Far West. Eri contro quello che ha sparato? Non lo so, dovrei andare a recuperare. Può darsi anche che ho cambiato idea. Mica sono. No. Può darsi pure che ho cambiato idea. Ciò dimostra che ogni caso è a sé stante, peraltro. Anch'io sono del parere che si può cambiare idea, però a me è caduto un mito, perché uno come può darsi pure che mi sono convinto del contrario, leggendo, guardando le cose, pensando. Non è che una cosa così strana, cioè sicuramente pensavo delle cose che non pensavo 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa. Sei come gli altri, anche te più qualche cambio. Che cazzo vuol dire cambiare idea? Ma cambiare idea non c'è da cambiare idea su una cosa, questo non c'è. Uno può approfondire e anche cambiare anche in base all'età, quello è una roba che non. Qual è il problema? Non ho capito. Quello non c'entra niente, quello. Tu fai le stesse cose e pensi le stesse cose di quando avevi 15 anni o 16 questo anni, quanti anni hai niente, tu? Questo. No, ma parliamo di 2 o 3 anni fa, che no, il problema non c'è il problema, dico solo che mi piace il personaggio coerente come te, che fai sempre, che tiri fuori i peggio delle persone appunto per la tua coerenza e tutti i tuoi idee. Ma io ero onesto all'epoca, della radio e della TV. Tutto qua, non c'è. Ero onesto all'epoca a dire quello che pensavo, ma non lo so, non mi ricordo cosa ho detto. Può darsi. No, ma magari sbaglio io perché mi ricordo male, non c'è problema. Vabbè, invece tu come la pensi? Che io, guarda, io non mi conosco, non avrei il coraggio di sparare. Lui ha fatto bene, io avrei magari, ecco, una mazzata di testa gli avrei tirato, però non avrei il coraggio di sparare. Comunque ha fatto bene. Punto, ecco. Marco, provincia di Savona, vai. Ciao, sono Marco. Dimmi. Quello che tu, Salvini e molti altri ascoltatori fate è istigare all'omicidio le persone, armare, volere al mare le persone, volere. È uguale a quelli che fanno i parenti di Ercolano verso il povero gioielliere. No, ma capisco la provocazione, ma è una cazzata. È una cazzata quella che stai dicendo. No, che non è una cazzata. Capisco la provocazione, ma è una minchiata. Io non dico che, ovviamente, dico di armarsi secondo le leggi, Dice addirittura giusto togliere sgravi fiscali a chi vende. Quello dice Salvini, a me non me ne frega niente. Sì, hai detto che era una buona idea. Ma sì, più armi, più armi per tutti. Sì, è vero. Cioè, tutte cose che vanno in una direzione precisa. Quale direzione? Quella del fatto che uno si può difendere anche da solo. Si può difendere anche da solo. Oltre ogni ragionevole limite, questo è la questione. Dentro i limiti delle leggi che vogliono cambiare. No, perché li vuoi cambiare, appunto. Certo, ma perché non si possono cambiare le leggi. Si possono cambiare, ma il tuo pensiero di oggi, non mi interessa quello che pensavi 2 anni fa, è gravissimo quello che pensi. Ma che gravissimo? È gravissimo secondo te? Quello che ci mancherebbe. Vabbè. Io sono il verbo. Però è gravissimo perché allora da una parte fammi sentire Marco, però fammi sentire, tanto lo sappiamo che pensi. Marco, ce l'abbiamo già detto nei giorni scorsi. Voler dire armatevi, sparate chi entra in casa. Sì, ma non è alla cazzo di cane, armatevi senza licenze, armatevi senza regole, sparate alla cazzo di cane. Sto dicendo che bisogna cambiare. Tu hai difeso quello che ha crivellato di colpi 2 rom appunto, che stavano scappando, lo stavi difendendo. No, allora io sto dicendo adesso, e comunque io quello che penso è in divenire, cioè sento le cose e mi convinco sempre di più, ascoltando le testimonianze, gli ascoltatori, le persone, gli avvocati, che se uno reagisce in maniera scomposta a un tentativo di rapina, in particolare quando ci sono familiari, eccetera, eccetera, ma lasciamo perdere i familiari, se reagisce in maniera scomposta deve essere protetto, perché è naturale e normale, non essendo killer professionisti, almeno la maggior parte delle persone, reagire in questo modo. E credo che passare un calvario giudiziario perché uno reagisce in maniera scomposta a un tentativo di rapina o di omicidio, quello che è, sia sbagliato. Cioè, lo penso. Dopodiché i dettagli poi ce ne possono essere tanti, ovviamente, no? Assolutamente. Io quello dico, ma non c'è nessuna istigazione all'omicidio. Di no, no, ma invece hai ragione, perché non è così. Perché chi ha un'arma si presuppone che abbia una freddezza e lucidità. Questo è il problema. No, se no, succede come negli Stati Uniti. Si presuppone, tant'è che uno deve fare dei test psicologici. Tanto non cambiano nulla, dicono, ma non cambiano nulla. No, fermo lì che c'è la borsa, la pubblicità, quello che è. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Ormai è tutto degradato. Io voglio capire da Parenzo se è d'accordo con l'uso del contante fino a 3.000 euro, questa trovata nuova della... Assolutamente, cioè, no. La pensi come Bersani che dice che favorisce l'evasione fiscale? Ma non so se lo dice Bersani, se lo dice, Bersani, delle... non mi interessa se è un provvedimento di destra, di sinistra, berlusconiano. Beh, è il tipico provvedimento berlusconiano. È il tipico, però, che è stato, c'è stato in questo, ma non mi interessa l'etichetta, mi interessa la sostanza. E molti commercianti sono favorevoli. Ma chi è lo stronzo? Molti commercianti sono favorevoli. Beh, per forza. Perché? Ovvio, perché sono evasori? No, non è perché sono evasori, perché chiunque, probabilmente anch'io stesso, se avessi la possibilità di comprare una cosa che magari è piuttosto cara, che costa 1.500, e quello mi dicesse: guarda, se mi dai le cose in contanti te la faccio pagare 1.200 e non ti faccio lo scontrino, probabilmente anch'io, che non è che sono una persona normale, probabilmente direi di sì. Cioè, favorisci l'evasione fiscale. Ma questo è evidente. Non lo so. Tu giri con 3.000 euro in tasca? Io giro tu, pur avendo la disponibilità euro, di 5, farlo. Massimo 5 euro bene, in tasca. Credo. Perché pago, ti assicuro, pago anche 10 euro quando si può, e mi incazzo quando uno non mi fa pagare 10 euro col bancomat. No, ma anch'io detesto. Ma lo faccio per però non faccio il commerciante. Il taxi lo pago anch'io sempre col bancomat, con la finché carta. Posso pago col bancomat. Dopodiché mi devi spiegare, e anche i nostri ascoltatori, cioè i tuoi amici camionisti, perché ha preso, chi è che gira con fino a 3.000 euro in tasca? Ma perché ha preso questo provvedimento? È evidente, per strizzare l'occhio a NQQ, agli ex berlusconiani, che Alfano dice NQQ, non è CD, si chiama la Quagliariella, se n'è andata anche lui, Quagliariello lì sta andando via anche lui, NQQ, quell'elettorato lì che evidentemente è un elettorato di come la cosa sulla prima casa, mentre togliere l'IMU sulla prima casa è un provvedimento giusto, ma anche questo berlusconiano, sì. Questa roba dei 3.000 euro chiaramente parla a tutta una fascia di persone che sono commercianti, quelli che gli idraulici, che giustamente anche loro sono non necessariamente sono evasori. Ma non è che sono evasori, però sono categorie ultra tartassate, e quindi fai se possono grattano. Ma anch'io se posso grattano. Ma scusami, ma se un idraulico ti viene a casa, no? Ho capito. E ti dice: allora, fino a 3.000 euro, ma io voglio trovare un ascoltatore della radio che gira con 3.000 euro in tasca. Voglio vedere se ce n'è uno. Clau Claudio da Brescia. Ecco, Claudio da Brescia non ha neanche i soldi per mangiare. Tipo, figurati se ma che ne sa, perché dovrebbe? Perché stai dicendo così? Dai, Claudio, dai, su. Pronto? Hai i soldi per mangiare? No, scherzo, dai, ovviamente sì. Dai, pronto? Dai. Hai i soldi per mangiare? Sì, sì. Tranquilli, ma non gira con 3.000 euro in tasca? Non credo che giri con 3.000 euro in tasca. No, neanche no, con 1.000 euro. Neanche con, no, con 1.000 a volte. Sì. Vabbè, allora. L'altro, io volevo intervenire prima su quello che riguarda il tema della giustizia, che non so se Parenzo ogni tanto fa il soggetto oppure le pensa davvero queste cose, perché sennò ci sarebbe da tagliarsi le vene. Cioè, non si può equiparare una persona che è in casa sua e che si difende dall'aggressione di due nomadi che magari gli stuprano una moglie o lo ammazzano, se per caso il copione va diverso, cioè non è il delinquente che uccide la vittima, ma è la vittima che ogni tanto si difende, allora gli si deve dare un omicidio volontario, come se questo, anziché essere in casa sua e nel suo letto, si fosse alzato. No, nel caso di Mattielli è tentato omicidio, nel caso di Mattielli è tentato omicidio. Sì, vabbè, ma io direi una cosa, perché non suggeriamo a Renzi di fare una bella standing review? Smilitarizziamo polizia, carabinieri, tanto non servono a niente, perché tanto comunque, no, ragazzi, però uno non può avere l'illusione, non può avere l'illusione che ogni casa può essere protetta dai ladri. Questo non esiste in nessun paese, esiste, no, nelle fiction, nei film di fantascienza, su New York nel 2025, siamo d'accordo, però anche le ultime norme che ha fatto il nostro, vabbè, lasciamo perdere le norme, dai, le norme, l'attenuità del fatto, ormai uno può, vabbè, Claudio, qual è il punto, tu pensi che quello abbia fatto bene a reagire? Io penso che una volta tanto, e a crivellare di colpi nomadi, certo, perché ti spiego così: per 100 volte le persone inermi vengono calpestate, uccise, violentate dai ladri. Se una volta tanto una persona riesce a ammazzarne uno di loro, non ne farei una gran tragedia, la metterei nel conto della loro professione. Sì. Come chiunque sbaglia deve pagare, perché se un professionista sbaglia, sì, ha una situazione. Anche i ladri, anche i ladri, e deve, i rapinatori nel caso di Ercolano, nel caso dei Rom, gli italianissimi, certo, di Napoli, i napoletani. Certo, ma non faccio differenza, sono tutte, quando uno fa quel mestiere, per me che nomade o italiano. Bravo. Congolese o svedese, per me. Ma lui ha ragione, dice semplicemente, lo sai che vorrei mettere questa cosa, non so come, perché gli enti locali possono fare poco, Parenzo, però vorrei mettere questa cosa nel programma della lista Zanzara, in qualche modo devo trovare un, cioè, uno spunto, sparare, non ho capito. Sì, questa cosa dell'autodifesa, io cioè, continuo a non essere, o faccio una lista dentro la lista, che sarà una piccola quota che ti chiederò, che si chiama lista Rom A, no, e quindi metterò una piccola quota, io su questo sono totalmente contrario. Mario da Roma, vai Mario. Pronto? Dimmi. Ah, buonasera, senta, in Italia ci sono più di 60 milioni di cellulari. Perché non si può votare tramite un SMS, non so, un emendamento? Beh, amico mio, guarda, sicuramente bisogna rendere le elezioni un po' più meno vetuste, quello non c'è dubbio, ma no, già... Per esempio, già Renzi dice che è così bravo, così, perché ogni 6 mesi non manda... Ma perché già ci sono i brogli, già sì, ho capito, no, ma Mario, già ci sono mezzi brogli adesso che non ci sono, che ci sono le schede come 20 anni fa o come 30 anni fa, figuriamoci con i cellulari, però, il numero, chi controlla, un'altra cosa, non si può fare questa cosa anche in America, dove c'è il voto elettronico, cioè, in alcuni stati devi andare fisicamente, comunque fisicamente ci devi sempre andare, dai, su. Ascolta, io negli anni 90 ero a New York a lavorare e ascoltavo la trasmissione di Howard Stern. Sai cosa ha fatto Howard Stern che tu ancora non hai fatto? Cosa non ho fatto io? Ha fatto un rapporto sessuale in diretta. Ma non so, vabbè, non dia suggerimenti. Quando questa, la Zanzara? Ma perché vuoi un rapporto sessuale in diretta? Non ho capito. L'ha fatto. Ma ho capito, mica uno deve copiare per forza. Howard Stern è un mito assoluto per tante cose che ha fatto, per altre cose non... Ma non... tu piano piano ti ci stai avvicinando. Ma non so se mi sto avvicinando, ma non so, ma rapporto sessuale in diretta... Ma ti manca ancora qualche cosa. Io sono perché le cose avvengano... casualmente, cioè se uno costruisce una cosa per fare un rapporto sessuale in diretta, sinceramente non la costruisco perché non mi interessa. Non l'ha costruito, gli ma è venuto, come no, gli è ma per va caso. Dai, l'ha raccontato 1000 volte che l'ha costruito, dai, su, cioè, dai, sapevi, su. Ma certo che l'ha costruito. Ho guardato, lo ascoltavo ogni giorno come ascolto ogni giorno te, ecco, insomma. No, ma voglio dire, io sono contento di questo accostamento che è rispettoso nei confronti di Stern, ma ti dico che alcune cose sono costruite, io le cose costruite, cioè i rapporti sessuali in diretta costruiti non mi piacciono, poi può succedere che uno, comunque, casualmente possono succedere tante cose, ma la costruzione comunque, a priori. Sì, ascolta, te e la Spalla Parenzo siete un duo formidabile. È tutto qua, va bene? Buonasera. Ciao. Oh, quanti VIP vogliono i 5 Stelle, non importa chi, sindaco o comunque alla guida di Roma nei prossimi anni. Per esempio Claudio Amendola. Ecco, questo è strano, che il compagno Claudio, che in genere è un bravo compagno, un compagno di base, compagno attore. Ma che compagno? È stato di sinistra. Claudio, sì, Claudio sì, certo, non, ma non è stato un compagno, dai su, ma ho capito. Ma no. Era molto, è molto di sinistra. Ma sì, ma no, però ma c'è una parte di quella intelligenza di sinistra che ora si sta un po' spostando sui 5 Ma perché Stelle. Hanno visto il disastro degli altri, allora diamo una chance ai 5 Stelle. Però io sono contrario, sì, a quella cosa che dice Grillo. Io sono a favore del fatto che 5 Stelle possano governare Roma, perché sicuramente sono fuori dai giochi e se prendono i voti va benissimo. Però Grillo è ancora convinto che uno vale uno, cioè chiunque metti a fare il sindaco è uguale. Io invece sono convinto, no, stamattina sentivo un amico rondolino che giustamente diceva la stessa cosa, per governare Roma ci vuole anche una personalità, ci vuole qualcuno che abbia le palle, cioè ci vuole qualcuno che non sia uno qualunque. Cioè Marino era uno qualunque, uno che è stato pizzicato da Bettini, per chi non lo sapesse era il RAS del PD a Roma, ed è stato messo a fare il sindaco. No, ha fatto prima delle primarie, sì, vabbè, che ha vinto, sì, e poi dopo è stato votato. No, sono le uniche elezioni, no, ma sono le uniche elezioni in cui uno è stato votato. No, ma quello va benissimo. A differenza di Renzi, effettivamente. Che Marino non è stato eletto, Renzi. Marino no. È stato eletto. Ma io sono d'accordo su questo. E poi trattato come Saddam Hussein alla fine, però, in questi ultimi giorni. Però ti ripeto, per fare il sindaco di Roma ci vuole una personalità, cioè ci vuole un uomo con una personalità forte, cioè uno che abbia carisma. Non può essere un consigliere comunale che ha dei 5 Stelle che adesso sono a Roma, con tutto il rispetto. Non hanno la caratura. Cioè non hanno la caratura, è normale una cosa così. Poi oh, magari sanno, magari possono essere capaci pure loro, Amendola. Il PD e la destra e Forza Italia e chi per loro, secondo me farebbero molto bene a star schiacciatissimi, sì, andare schisci, come schisci, si dice, nei circoli, nelle scuole, nei posti dove ci sono i giovani, e dire tra 10 anni vi va di battere il Movimento 5 Stelle che governerà al Roma momento, se nei prossimi sembra anni, ecco. Poi parla di acido muriatico. Ora io dico una cosa, Amendola sembra più dire una constatazione piuttosto che un endorsement. No, però è chiaro che lui fa il tifo per i 5 Stelle, per il governo dei 5 Stelle a Roma, al di là della diplomazia che tutti gli uomini di spettacolo usano, perché no, tutti gli uomini perché di spettacolo sono come i calciatori, si espongono poco. No, questo non è vero. Anzi, spesso gli uomini di spettacolo vengono accusati di essere di sinistra e di aver fatto il tifo, di aver preso parte, sì, con però questo, con quello, venivano accusati di essere un po' trasversale, lavora a Mediaset, no, di ma sinistra. A Amendola ha sempre detto di rivendicare, sì, di essere di, sì, sinistra e romanista. Ma senti questa cosa dell'acido, certo, muriatico di Amendola, vai. Roma ha bisogno di un rinnovamento di classe politica, ma da acido muriatico, perché io non credo come i partiti politici a Roma abbiano la faccia di ripresentarsi. La destra, e non mi venite a dire che Fratelli d'Italia si tira fuori dall'amministrazione precedente, no, non perché può farlo, non può farlo. Allora, però l'ascoltatore che dice di andare a Roma, che avete sentito prima, che è andato a Roma, che bisogna andare a Roma con le mazze da baseball, eccetera, eccetera, tu lo consideri un pazzo scatenato. Ora, l'acido muriatico lo dice con un altro tono, per carità, ma questo parla di acido muriatico, di spazzare via la classe dirigente con l'acido muriatico. Ragazzi, però non è che sia molto diverso, adesso perché lo dice Amendola, dobbiamo capire, eccetera, eccetera. Dice, la classe dirigente a Roma va spazzata via, e fino a qua io sono d'accordo. Lui dice con l'acido muriatico. Ora, qualcuno potrebbe venire, no, in mente l'acido muriatico, sì, cancelliamoli tutti, ammazziamoli tutti. Beh, perché lo dice Amendola, una persona che è molto popolare in Italia. Fa male solo a chi non sa ridere. È la zanzara. La zanzara. Oh, make me over. Vabbè, ma Parenzo, lascialo perdere, che io gli voglio bene a Parenzo, ma non ci capisce un cazzo. L'arresto del vicepresidente che si è autosospeso della regione Lombardia, Mantovani, addirittura nel giorno, Parenzo, in cui doveva presenziare a un convegno, sì, sulla trasparenza. Sulla legalità, è molto divertente. E sai chi è l'avvocato? Chi è l'avvocato? È un amico suo personale, sì, l'avvocato di Mantovani, sì, è Roberto Lassini. Ciao Roberto, come stai? Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Eccoci. Lassini, lo ricordiamo tutti quanti. Perché, signor Lassini? Per cosa? Ah, per quei manifesti. Per dei manifesti famosi, sì, di 4 anni fa o 5 anni fa. Ricordate che comunque non c'entra nulla questa vicenda con stasera, no, vabbè, che poi no, sono stato prosciolto. Diciamolo subito. Assolutamente. Grazie. Però lei, avvocato, usò un tono nei confronti dei magistrati che non era un tono esattamente fuori le BR dalle procure. Ecco. No, i manifesti non li feci io, ma non è il tema della ma no, serata assolutamente di stasera. Sono stato prosciolto per per questo, li avevo difesi condividendo uno spirito di incavolatura. Ma fu il suo comitato a una cosa del genere. Vabbè, il suo comitato, la Procura però della Repubblica richiese l'archiviazione. Sì, ma infatti non è un reato. Io non ho mai pensato che quello fosse un reato. Come sta? È andato in carcere a trovare Mantovani? Sì, sono stato a trovarlo anche stamattina, domani c'è un interrogatorio di garanzia. È molto provato. Molto provato, molto provato, che vuol dire? Sta male? Certo, in queste condizioni siamo male tutti, poi consideriamo... No, ma lui fisicamente può sopportare il carcere o no? Guardi, io spero di sì, è una durissima prova, una durissima prova. Mm. Quanti anni ha? 60... Ha 65 anni e oltre anche. 65. Ma che ha fatto quando ti ha visto, Roberto Mantovani? Ma guarda, io ha pianto, si è disperato. Ti dico che la situazione è molto pesante, perché oltre che essere il suo avvocato, io sono anche amico e non sono una persona che si commuove facilmente, lui meno di me. Ma ti dico, è scappata una qualche lacrima da parte sua e da parte mia. Ti dico che ho visto nei suoi occhi lo stesso smarrimento mio. Quando 22 anni ero lì nell'inferno dove si trova lui da innocente, sai che sono stato poi assolto. Sì, come no. Ho visto nei suoi occhi lo stesso smarrimento mio. Dunque è scoppiato a piangere davanti a te. Ci siamo stretti le mani come tra due amici si fa in queste circostanze, poi ci siamo fatti coraggio e abbiamo affrontato quelle che sono i fatti. Senti, ma Berlusconi si è fatto sentire con lui in queste ore attraverso te, attraverso qualcuno, oppure No, però ho sentito anch'io le affermazioni pubbliche che ha fatto il presidente di stima, ma d'altro canto tutti conosciamo l'onestà. Mantovani è una persona onesta, quello vedremo. Secondo la procura no, ma insomma questo lo vedremo. Beh, anche voi l'avete conosciuto, ha uno stile. Ma io l'ho capito, posso conoscere questo, certo, ma questo io l'ho conosciuto politicamente. Poi, l'ho conosciuto sicuramente. Siccome dicono in sostanza, tra le altre cose, che dava dei lavori ad un architetto in cambio di lavori pubblici, diciamo. Fermo. Questo l'ha pure rivendicato in un video. Cioè, c'è un video di campagna elettorale in cui lui giustamente diceva: io sono sindaco di Arconate e arconatesi avrò bisogno di avere direttore. No, Parenzo, non c'entra nulla. No, non c'entra niente. Allora, però è vero un'insalata russa, no, questo è un procedimento penale. Esatto, adesso e qui lui non... domani risponderà ad ogni contestazione. Però ecco, c'è una cosa che mi interessa sapere. Una delle accuse che mi ha colpito è questa: cioè lui avrebbe fatto lavorare gratis a casa sua un architetto, casa sua, casa del figlio e altre residenze, e in cambio, diciamo, di questi a lavori. Cui poi sono stati dati degli appalti. Esatto, è vero quando era qua, sottosegretario. No, allora io vi dico che domani il senatore Mantovani risponderà nel merito a tutte le contestazioni che gli vengono fatte. Sì. Vi posso dire che per quanto mi riguarda ritengo che non sia vero nulla e che non ci sia niente di rilevante penalmente soprattutto. Ma voglio aggiungere un particolare, perché nel merito ribadisco, dimmi. Risponderà lui domani. Abbiamo rispetto dell'autorità giudiziaria e confidiamo nel fatto che domani l'interrogatorio sia effettivamente di garanzia. Rispetto, Roberto, tu hai detto che la giustizia in Italia è nigeriana oggi. E ci ascolti, ma può essere una sintesi di qualche vostro collega, io adesso ricordo. È virgolettato, libero. La giustizia in Italia è nigeriana, ma che cosa ti riferivi? Io vi stavo dicendo che lui domani risponderà nel merito, però sin d'ora io faccio una considerazione, c'è una sproporzione di questa misura cautelare, lo sapete anche voi che è stata richiesta a settembre dell'anno scorso, e l'hanno mandata in esecuzione ieri. E chi ha sbagliato secondo te? Ma io a me in questo momento non interessa dire chi ha sbagliato, io dico che non è possibile che un cittadino italiano resti in balia 11 mesi di una richiesta di misura cautelare quando in 11 mesi avremmo già fatto anche il processo. Possiamo essere d'accordo tutti, ma secondo te c'è una giustizia, lo sta dicendo Salvini, lo stanno dicendo altri, cioè capisco che tu sei il suo avvocato, però togliti un attimo dal fatto di essere l'avvocato di una persona, perché tu sei anche un militante politico, cioè non è che sei solo un avvocato. Allora ti voglio dire una cosa, secondo te c'è una giustizia orologeria, questi giudici sono dei giudici che stanno facendo queste azioni, oppure chi ha deciso l'arresto per colpire la giunta Maroni, per colpire indirettamente Berlusconi, il centrodestra, che ne so, sì o no secondo te? Allora, io posso dirvi che condivido le opinioni che hanno espresso i leader politici e il sostegno del mio assistito, ma io qui faccio l'avvocato, non devo... Vabbè, fare... Vabbè, ma fai un attimo il coso, voglio capire se per te è una giustizia orologeria, sì o no? Ma io voglio sperare di no, io domani voglio un confronto, parlo da avvocato, in un interrogatorio dove ci ascoltino con la voglia di ascoltarci e con la voglia critica. Vabbè, quello, da, quello d'accordo, però la cosa, però scusami Roberto, tu hai parlato di giustizia, allora da questo punto di vista l'Italia sugli arresti si trova più vicina alla Nigeria che a Bruxelles, per la prima cosa che sembra una battuta che non so da dove sia venuta fuori, libero, intervista libero. Sì, no, ma questo non significa che sia una giustizia a orologeria, io credo che sia un altro concetto, no? Cioè io mi sono limitato a dire, se capisco bene a che cosa vi riferite, a dire che questi tempi non sono accettabili. Cioè in un d'accordo. Anno i processi, l'altra cosa, qualcun altro ha detto, un leader politico, sì, dimmi. In un anno, scusatemi, stiamo a discutere ancora se dobbiamo mettere in carcere preventivo una persona, non è accettabile, facciamo i processi a questo punto, lasciamo le persone libere di difendersi. E punto, questo è il problema che noi solleviamo anzitutto. Però io dico una cosa, secondo te, l'ha detto un leader, non ti dico chi, del centrodestra oggi, la carcerazione preventiva è utilizzata come per far confessare le persone, come una forma di tortura? Questo è un vecchio tema. Dimmi se sei d'accordo o no su questa cosa, l'ha detta un esponente di centrodestra, oggi la carcerazione preventiva è usata ancora come forma di tortura, queste parole ha usato, sì o no? Io voglio sperare di no, voglio sperare che domani ci sia un confronto franco. Il confronto, gli interrogatori sono gli interrogatori, uno ha la linea difensiva, giustamente voi vi difenderete dalle accuse e quelli faranno valere le loro ragioni. Qui non stiamo parlando degli arresti, Io vi ringrazio molto di avermi telefonato. Insomma, Roberto, io voglio sapere se gli arresti, secondo te gli arresti preventivi, cioè la carcerazione preventiva oggi è usata ancora come forma di pressione per far confessare, per estorcere, e c'è dunque una specie di tortura, come dice oggi Brunetta, sì o no? Apprezzo l'insistenza, io vi ribadisco, spero di no, voglio sperare che non sia questo il caso. Poi quando torni a fare un po' il militante politico da battaglia sulla giustizia ci avverti, Va bene, vi ringrazio. Ciao. Allora, no, ma scusa un attimo, ma i magistrati come hanno preso il fatto che tu dopo il ricordo sei pur sempre posso... quello che ha messo i manifesti del BR al tribunale. Ma non li ho messi. Ma io, non li hai messi, ma come dire, eri del comitato che li ha promossi. No, ma non è questo. Ti accolgono bene. Ho continuato a fare l'avvocato. Vi ringrazio delle domande, ma ho continuato a fare l'avvocato tutti i giorni. Nel mio piccolo, non ho mai avuto problemi. Si è pagato i lavori fatti a casa sua o no, signor Mantovani? A chi? All'architetto lì, ha pagato i lavori che hanno fatto a casa sua? Li ha pagati lui o no? Ma risponderà domani, ma credo proprio di sì. Io sono convinto di sì. Credo lo conosco privatamente. No, ma oggi su Libero hai detto un'altra cosa, avvocato. Scusami, se non ricordo male, l'ho letto alle 6:30 del mattino. Ma su Libero hai detto si è tratto di reati bagatellari. Sì, di poche migliaia. No, poche migliaia di euro, quindi vuol dire che non... Vabbè, ragazzi, pubblicità. Dai, ma dai. La Zanzara. Ma ti hai detto che il casteggio non è serietà? È Pulcinella, te lo ricordi? Dice, casteggiando. Ragazzi, poche ore fa è successa una cosa un po' strana. Sai che Scialpi, te lo ricordi Scialpi? Sì, come? Cioè, il cantante Scialpi, certo. Ha avuto un problema al cuore. Pare il cantante famosissimo negli anni '80 soprattutto. Sì, stupendo. Io ero un ammiratore di Scialpi. Un paio di canzoni andavo matto. Allora, signor Scialpi, che si è sposato a New York. Si è sposato a New York con un signore che si chiama, non mi ricordo come, Roberto, Roberto Blasi. Si è sposato con un uomo, sì, in altri posti si può fare. Sì. Non ci sono tutti quei casini che ci sono in Italia dove basterebbe cambiare un articolo del codice civile e parificare il matrimonio tra uomo e donna al matrimonio omosessuale. Basterebbe una riga del codice civile. Il buon marino invece, che avete cacciato a pedate nel sedere, ad esempio, una cosa giusta l'aveva fatta, che era quella di fare. È un gesto simbolico che infatti ha pagato caro. Io ho apprezzato questa infatti cosa. Ha pagato caro. Ho apprezzato. Lo avete cacciato? No, io non ho cacciato nessuno, non posso cacciare nessuno, per cui avete che cosa? Che cazzo dici? C'era dei media. No, ma che la chiesa ce l'ha, come dire, se la si è presa con Marino per se questo. Se l'è legata al coso, se non c'è dubbio, al pisello, no, perché no, se l'è legata al coso, al dito, dice. Al dito papà, che è successo? Si è sentito male Scialpi. Roberto Blasi, che è il marito, si sono sposati a New York. Il marito. Si sono sposati e il marito lo hanno tenuto fuori dalla camera dove è stato ricoverato per una cosa grave al cuore per 2 ore e mezza circa. E si è incazzato come una bestia, perché ha detto: io sono il marito, beh, resti fuori. Cioè, lo hanno dimenticato fuori. Io proverei a chiamare Roberto, che conosco, Roberto Blasi, che è il compagno di Scialpi, compagno, il marito di Scialpi, signor Scialpi. Sì, pronto. Roberto? Sì. Ciao, sono Giuseppe Cruciani da Radio 24. Ciao, ti disturbo? Ciao, no, figurati Giuseppe, ciao. Ma senti, che è successo? Ho letto che praticamente non ti hanno fatto entrare in ospedale. Non è che non mi hanno fatto entrare in ospedale, il problema è che Giovanni ha avuto un gravissimo problema al cuore, stava veramente a rischio morte. Sì. Il problema è che lì in stenteria, io sono, quando l'ho accompagnato, l'ho entrato e sono rimasto 2 ore e mezza lì fuori, anche chiedendo giustamente informazioni in merito a quello che era le condizioni di salute di Giovanni. Mi hanno chiesto, ma lei è un familiare? Dico, no, guardi, sono il marito, insomma, Scialpi, Pechino Express, abbiamo fatto insieme, di qua, di là, le faccio sapere, adesso mi informo, 2 ore e mezza lì, poi alla fine mi hanno aperto la porta, dice, puoi entrare, perché poi ha saputo da Giovanni che era riuscito di straforo a chiamare una persona che conoscevamo in ospedale, che ha chiamato la caposala, che mi ha fatto entrare. È proprio uno schifo, cioè, rischiava veramente di morire là dentro, io non sapevo neanche che stava morendo, perché è entrato con codice rosso proprio gravissimo. Cioè, per 2 ore e mezza tu sei rimasto fuori, ma se solo che mi dicesse niente, cioè se fossi stato la moglie, diciamo donna, femmina, sarebbe stato diverso secondo te? Magari, certo, usciva il medico e mi dava informazioni su come sono stato di salute, io non sapevo niente, accompagnato lì a un certo momento, riguardate, chiamo i carabinieri io qui, se mi dico quello che succede. È successo perché sono due omosessuali, perché eri uno sconosciuto praticamente, cioè no, non ero un familiare, giustamente mi hanno chiesto se ero un familiare, cioè poi sono entrato, ma tu gli hai detto sono il marito. È chiaro. No, vabbè, certo, voi siete sposati a New York, eccetera. È chiaro, anche perché Giovanni non ha parenti qui, eh. Cioè Giovanni è figlio unico, non ha genitori, e l'unica è una zia che è a Parma. Cioè se succedeva qualcosa, che andava in coma, roba del genere, io non sapevo niente, neanche per stargli di vicino, che ne so, a saper sentire quel medico che diceva, oppure, che ne so, a stringergli la mano, a confortarlo un attimo, proprio fuori così senza sapere niente, perché poi giustamente tergiversano, ho chiesto, adesso mi fanno sapere, e questo per 2 ore e mezzo fino a che qualcuno ci ha raccomandato, perché è una raccomandazione, e mi hanno fatto entrare. Tu dici che se ci fosse stata una legge sarebbe stato diverso? Ma è chiaro, perché visto il medico, quando tu chiedi, esce fuori, dice guarda, c'è questo e questo, stiamo facendo questo e questo, io sono stato lì proprio così. Abbandonato come se fosse un abbandonato come nessuno, un estraneo, perché giustamente è entrato con codice rosso. No, ma ragazzi, è evidente che se ci fosse stato il matrimonio, io sono a favore del matrimonio, cioè non di questa pantomima che stanno facendo adesso, perché adesso stanno facendo una pantomima. Non sei un po' scandalizzato da questa cosa vergognosa che rimandano alle calende greche le unioni civili? No, che... ma io infatti l'hai visto, l'ho scritto, perché poi veramente ti trovi in queste situazioni, che sono veramente situazioni che come me chissà quanti altri ne hanno vissuta nella stessa maniera, ma non dico solo omosessuali, ma anche coppie di fatto, diciamo, conviventi. E non ti fa schifo questa cosa che sta succedendo a Montecitorio, questo continuo rimandare? Assolutamente sì, guarda, io spero, perché la conosco e quindi so che Monica Cirinnà ha due palle, cioè scusa il termine, ma esagerato. A due palle puro, così, Monica, a due palle. Sì. Cioè, ma se tu avessi di fronte Gaspari, che gli diresti? Chi devo dire? Che si trovasse nelle situazioni che mi sono trovato io. Gli auguro questo. Ciao, e presto. Poi vediamo. Ciao, ragazzi. Ragazzi, io non lo so se con una legge con la legge che stanno approvando le cose sarebbero andate diversamente. Certo, essere tenuti fuori dalla stanza dove uno viene ricoverato semplicemente perché uno dice sono il marito, vabbè, ma tu il marito di che? Cioè, lo lasciano fuori 2 ore e mezzo, non lo so, probabilmente sarebbe la stessa cosa, sarebbe la stessa cosa. Beh no, perché se fosse vabbè, non è che uno deve portare la carta di identità familiare, cioè non... No, però viene visto con sospetto, dici come sei la moglie? Sei un maschio, non puoi essere la moglie. Sì, ma non è che con la legge cambiano le cose, il problema è la mentalità, non è la legge. Perché capito, anche se non sei un familiare o sei un amico, perché non puoi entrare? Cioè, perché non ti devo dare informazioni? Cioè, non cambia molto, la questione è la mentalità. Con una legge non è che cambia la mentalità. Se uno è un coglione, non ti vuole far entrare, non ti vuole dare notizie perché non sei un familiare. Ma perché non può avere la legge sulla privacy, peraltro? Sì. Non è che il primo che arriva e ti dice voglio sapere come sta, X e Y ti danno informazioni, specie se delicate e sensibili come queste. Scusa, questo è normale che succeda. Allora, Antonio da Bari, vai, Antonio. Pronto, buonasera. Vai. Volevo dire una cosa a Parenzo, ma come gli viene in mente di prendere parte di uno che non vuole rinunciare ai vitalizi, 7.000 euro al mese? Cioè, ma ti rendi conto? È delle parti tue là, Tatarella, non delle parti mie. Ma no, dove però... sia, non è quello il problema. Io capisco che sia facile. Allora, mio fratello, io faccio l'autista e meno male prendo bene, no? Non mi posso lamentare. Mio fratello fa 10 ore al giorno, no? Per 1200 euro e campa una famiglia. Questo che ha due figli buoni a nuovo a casa non può rinunciare a 7000 euro. Non si può. No, ma hai ragione, hai ragione. Da un punto di vista logico. Deve fare sempre, cioè, deve leccare il culo a questi politici a tutti i costi. Ma non ce n'è bisogno. No, ma bisogna essere chiari su questo. Siccome le persone vengono licenziate, perdono il lavoro, non hanno paracadute, eccetera. Quelli che vengono, no, non sto difendendo. Adesso improvvisamente, come le persone, pur di titillare e sobillare la gente. Non vuoi seguire quello che dico. Io dico semplicemente una cosa. Come le persone, come è normale che sia, dunque non sto difendendo nessuno, perdono il lavoro, ci sono questi politici che possono serenamente perdere anche il vitalizio, senza che nessuno si scandalizzi. E io credo che Antonio la pensi come me, giusto, bene, Antonio? Ma nessuno difende il vitalizio, infatti sono a favore della riforma che hanno fatto. Bisogna toglierli, toglierli. Come me, che stanno dalla mattina alla sera in mezzo alla strada e rischiano la vita per quattro soldi e ci trattano come l'ultima cosa del caso. Ma lei ha ragione, ma io non ho nulla con... Lei ha ragione. Ci fanno due legislature, tre legislature e prendono un fracco di quattrini, e questo è il punto, e continuano a prendere nonostante le riforme che dici tu. Allora, parificassero la media delle pensioni degli italiani ai vitalizi delle... Sì, ma quella roba là incide pochissimo nel bilancio dello Stato. Ma me ne frega, è una questione di giustizia. È una questione di giustizia e di principio, e sono d'accordo, e infatti l'hanno riformato. No, e infatti l'hanno riformato. Dico che quelli che fino a poco fa hanno vissuto di politica e non sono dei mascalzoni, perché hanno vissuto di politica e hanno fatto solo quello, avranno diritto ad avere la pensione. È solo questo. Antonio, per il che futuro, dici tu? Questo è. Antonio. È una cosa vergognosa. Allora, io non lo capisce, ho avuto le carte dell'Equitalia. Vabbè, questo che c'entra però le carte? Vabbè, tanto che sto qua, la dico. Questo può capitare a chiunque. Dilla, Antonio, dilla, puoi dire quello. Allora, c'ho le carte dell'Equitalia. Ho voluto pagare. Sto rateizzando quasi 5 anni a 100 euro al mese. Sì. Poi mi hanno mandato 2 anni fa le altre carte, ho chiamato, ho detto, senti, io già sto pagando l'Equitalia, vabbè, non c'entra niente, erano 4.000 euro, adesso sono diventate 17.000 euro, cioè è giusto, se io sto già pagando Equitalia, che mi mandi a fare gli altri soldi? Vabbè, sono altre cartelle però quelle, Antonio. Sì, ma io a loro glieli sto dando, mica un altro. Ecco, ho capito, ma non è che aumenti di interesse. Non è che se tu, stai, erano le stesse cartelle oppure cartelle diverse? No, diverse. Vabbè, amico mio, però tu rateizzato una cartella, due cartelle, poi te ne arrivano altre, non è che siccome stai rateizzando allora le altre scompaiono, no, e facciamo no, pari io e patta. Non dico questo, se sto dicendo che io voglio pagare, voglio sistemare. Cioè, perché mi stai aumentando gli interessi? Se io gli interessi, prevista, gli interessi allora... è un'altra questione vergognosa che in parte è stata cambiata, ma insomma, non so se è stata cambiata anche per il passato. Mi mandano sulla macchina, voglio nel quinto dello stipendio. Ma questo è terribile, terribile, terribile questo. No, ma se uno iniziasse a togliere i soldi a questi qua. Ma non c'è, ecco, però non c'entra col tuo caso, questo ti voglio dire. Non c'entra. È uno sfogo che ho capito e va bene, ma non c'entra. Lui sta dicendo una cosa molto semplice. Siccome Equitalia per conto dello Stato prende i soldi e applica degli interessi pazzeschi per rimpinguare le casse dello Stato. Cambiassero questa legge. Per rimpinguare le casse dello Stato. Non lo lui dice, Antonio, sto cercando di farlo, di spiegarlo. Se togliessi 7.000 euro a Tattarella risolveresti il problema di questo? No, no, però risolveresti il problema delle casse dello ragionando Stato. Ragionando così però non no, si fa nulla però. Ma non è vero. Fermi, perché... pubblicità. La zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. La zanzara. A fanculo, Parenzo e tutti, ma vaffanculo! L'Italia non conta niente, svegliatevi! Bisogna fare la rivoluzione, usiamo il lanciafiamme, è ora di finirla! Basta! Signor Buonanno, deputato al Parlamento Europeo, giusto per ricordare chi è, così come... Vabbè, che c'entra? No, dice, non è Donato da Mantova, no, Mauro da Mantova, Donato da Varese o un altro pazzo scriteriato. È un pazzo scriteriato, ma contemporaneamente è anche eurodeputato della Lega Nord per la fu indipendenza della Padania. Fu indipendenza della Padania. Basta, adesso non più. Leon da Firenze, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ti volevo raccontare il mio caso perché è un po' particolare rispetto a quello che ho sentito finora per quanto riguarda le armi. Niente, io stavo tornando a casa, stavo tornando al mio camper quando ero in vacanza al mare, E niente, trovai una persona, un ladro, che era all'interno di un del mio camper. Niente, io ho fatto fucilato per 5 anni e karate per 3. Sì. Quindi niente, gli tirai due sberle, le buttai per terra, senza infierire poi. Sì. E poi niente, poi in pratica mi ci sono messo sopra a sedere e ho chiamato la polizia. Beh, ottimo. Che è successo invece? La polizia mi disse semplicemente, guardi, se lei non ci aveva chiamato era meglio, perché in pratica è passato 6 anni di inferno. Cioè, che inferno è passato? Cioè, giudizia, praticamente mi hanno denunciato, siccome si è spaccato la mascella, ma non potevo certo immaginare, cioè, quando sei un cazzotto per difesa, insomma, perché questo sì, mi non davanti. Puoi calibrare. Forse se colpisco in un certo modo gli spacco la mascella. Che dici, caro ladro? Ti puoi girare un po' così magari ti colpisco una parte che non si rompe? Caro ladro, sempre, magari gentilmente offrendogli anche un caffè, perché Parenzo e altre persone pensano che si possa gestire così l'autodifesa. No, capito? Io penso che io morirei di... Se uno allora, mi aggredisse in casa, non c'è dubbio. Un PM testa di cazzo, e fatemelo dire, testa di cazzo, sì? Perché non è il mio vero nome, Leone, ho dovuto usare uno pseudonimo, ha fatto passare un inferno perché tentato omicidio, percosse. Cioè io ho detto in tribunale... Ma come sei uscito, sei uscito alla fine da questa vicenda? No, da questa vicenda non sono uscito, spendendo migliaia di euro di avvocati. E questo è il punto, è solo questo. Adesso Leon, che non è Leon ma è un nome inventato per coprire la sua vera identità, almeno così ci sta raccontando, ti ha detto esattamente quello che volevo dire io in poche parole, raccontando una storia, quello che volevo dire pochi secondi fa. Cioè dire, lui ha reagito spaccando la mascella a un ladro e credo che abbia passato un inferno perché gli hanno contestato l'eccesso di legittima difesa, o sbaglio? Esatto, no, è stato semplicemente questo, perché dice che io potevo tranquillamente, dice perché... Sì, offrire un caffè magari, no? Offrire un caffè... No, lui ha raccontato che io potevo, che praticamente, questo ha raccontato una storia molto più cruenta rispetto a quella che era la realtà, sì. E quindi veramente mi ha messo nella merda, e questo PM ha creduto a questa storia, mi hanno portato fino in Cassazione, 6 anni, cioè io non voglio che nessuna persona passi una cosa del genere da questo punto di vista, anche perché cioè Parenzo fa un discorso che io posso anche cioè in un certo senso benché quello che abbia passato posso anche capire, ma in quella situazione lì cioè ognuno ha un controllo diverso, io lì per lì ho avuto un certo controllo perché magari insomma fatto un po' d'arti marziali eccetera. Ho capito, però è evidente che non puoi controllare il modo in cui sferri un colpo, no? Il modo in cui colpisci. Ma è normale che sia così, ma io credo che anche il tizio Mattielli, il mitico Mattielli, Hermes Mattielli, che è stato condannato a 5 anni a risarcire 135. Ma è un personaggio che è stato rovinato da questa vicenda semplicemente perché ha reagito a due rom. Per carità, ha reagito. Cioè, chiediamo il parere all'illustre. Al professor Torno. È un illustre Torno. Intellettuale italiano, il professor Torno. Professor Armando. Chiediamo il parere di un illustre in altre cose. Intellettuale italiano, il signor ecco, Torno. Signor Torno, se venissero. Venga Armando dentro la zanzara. No, la cosa è. Se no, entrassero dentro casa sua. Momento culturale. 2-30 secondi. No. Se entrassero dentro casa sua. Ma perché deve fare entrare a casa di Torno? Se entrassero dentro la sua lussuosa casa ma milanese. Ma perché lussuosa? La sua lussuosa casa milanese. Due ladri. Cosa farebbe, signor Torno? Sparerebbe, ammazzerebbe, signor Torno? Questo voglio dire. Grande, cioè, se entrassero dentro grande casa grande cliente sua. Del Mattarell, peraltro, che è un famosissimo ristorante. Fermi tutti che c'è il traffico. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Sono una boiata pazzesca. Traffico no. Fate qualcosa, vi prego. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Cari amici, un ospite speciale ha scritto una specie di biografia che non è una biografia di Berlusconi, ma accade a fagiolo oggi, perché c'è una polemica fortissima tra Berlusconi e l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Addirittura, caro Parenzo, come sai, ieri quelli di Forza Italia sono andati via dall'aula. È uno sfregio pazzesco. Perché alcuni hanno detto: non voglio sentire un golpista che anche parla. Anche i leghisti se ne sono andati. Ma non solo, vabbè, queste sono cose parlamentari. Napolitano, dopo aver sentito alcune frasi di Berlusconi, ha vergato di suo pugno una lettera. Ancora lui scrive le lettere, no? Con mica fa le mail o i tweet, mica è un grillino. No, questo è vero. Ma no, anche tu fai i tweet, le mail. Sì, non è certo, che sei un grillino. Quello è napolitano, però. È scusa, napolitano, è un uomo di un'altra epoca. Appunto, dire. Appunto. E ha scritto una cosa tremenda su Berlusconi. Sì. Tremenda. E ha mandato questa lettera al signor Romani, che è capogruppo al Senato di Forza Italia. Ha detto: ho letto attribuite a Berlusconi parole ignobili che dovrebbero indurmi a querelarlo se non mi trattenessero la pietà verso una persona vittima ormai delle proprie patologiche ossessioni. Cioè, Berlusconi fa pietà a Napolitano, vabbè, d'accordo, ma è uno che ha delle ossessioni patologiche. È con noi Alan Friedman. Buonasera, buonasera. Buonasera, amici di Zanzara. Come stai? My way, my way. My way è il titolo del nuovo libro su Berlusconi. Sì, assolutamente. Sì. Ma senti che accento, cioè solo questo accento vale l'intervista. Cioè solo amici di Zanzara, già solo questo è. Allora, Rizzoli, Berlusconi. Non ti piace? Ma come no? Altro. Anzi, ho detto mi piace, già questo solo basterebbe a fare la allora, nostra. Allora, Berlusconi si racconta. Bisogna dire allegria alle amici di Zanzara, giusto? No. In inglese, dicelo in inglese, come si dice, i grandi show radiofonici americani, no? Come si fa lì? Come si direbbe quando c'è un grande ospite, special guest here? Ladies and gentlemen, welcome to the Zanzara, our special guest tonight, Alan Friedman. Stupendo, stupendo. Allora, Berlusconi si racconta a Friedman. Allora, però io inizierei... My way, Rizzoli, solo 20 euro? No, come solo 20 solo euro? Solo 20 euro. Vabbè, costano... Secondo me si prende online con un sconto per 17 euro. No, ma non dire così, perché la casa editrice... Ha ragione, però, ha ragione, perché vendono Amazon, pure online. Amazon è il numero 3, quindi evidentemente tante persone... Forse qualcuno preferisce comprare online. No, ma ha ragione, perché bisogna dirlo. Costano ancora così tanti libri, 20 euro. Ma beh, un libro... Ma sì, guarda però, che è un libro di tante pagine. Ma è la bellezza con questa copertina. Se io comprassi My Way di Alan Friedman, io lo comprei online perché costa meno. Comunque, poi uno è 300 pagine, mica è una barzelletta qui. 400, caro. No, io vedo 300. Perché lui si è fermato 390. Al risvolto di copertina, capito? No, io no, io ho letto un sacco di... Ha letto solo il capitolo, no, vero, sulle donne lui. Ha ragione lui, 390, ha ragione tu. Senti, Alan, ma chi ha ragione? Berlusconi adesso, sì. Però adesso andiamo al sodo, in questa polemica furibonda, in cui si rimanda pure al tuo libro, perché Berlusconi ieri avrebbe detto pure una cosa: dovete leggere tutti, rivolta ai suoi deputati, il capitolo di Friedman sul golpe, il capitolo che credo che sia quello intitolato... Ha detto in questo Berlusconi ieri? Sì, ha detto così, ha detto così Berlusconi, avrebbe detto... Guarda, la cosa è, su Napolitano, che Napolitano e Berlusconi non si amano, non è un segreto, no, credo, certo, per il mondo. Non c'è dubbio. Quello che io ho fatto nell'ultimo libro, che evidentemente, come si dice in modo per bene, ha fatto incazzare Napolitano. Così si dice, così. Ha fatto incavolare Napolitano. No, incazzare, sì. No. Incavolare. L'ha reso in un attimo turbato. Sì. Era evidentemente che io avevo rivelato che Mario Monti e lui erano, diciamo, in combusto da 6 mesi per preparare il terreno, per spianare il terreno. Piuttosto cioè di Berlusconi, in un modo che costituzionalmente, io non sono esperto, bisogna chiedere a Michele Aines, era comunque un po' un strapazzata della Costituzione. Non no, so ma secondo te dunque questa specie di golpe, di trama c'è stata? Per io spodestà... non uso mai la parola golpe, non uso la parola complotto. Nel nuovo libro su Berlusconi c'è un capitolone che si legge come un thriller di James Bond. Vabbè, e si chiama Intrigo Internazionale. No, come Intrigo Internazionale. Mi piace come parla con entusiasmo del suo libro, giustamente. No, ma certo. Io sono contento perché in questo ho indagato alla Casa Bianca, ho parlato con gli americani a Washington, ho parlato con quelli di Merkel in Berlino, sono andato a Bruxelles, ho intervistato Barroso, a Madrid Zapatero, ho parlato un po' con tutti e poi ho recuperato dei documenti segreti che mostrano chi era dietro il tentativo, non in Italia ma a livello mondiale, di far cadere Berlusconi e cosa ha detto Barack Obama, il mio presidente. Però scusami Alan, per riassumere, anche riferito alla polemica di adesso, c'è stato... La polemica di adesso mi sembra una specie di retro, una cosa un po' retro. Vabbè, retro, sai. Scusa, ma quando hai visto Berlusconi? No? E avete parlato di Napolitano le tante volte che sei andato da Berlusconi. Che ti ha confessato? Ecco, hai visto la rabbia. Che cosa hai notato nei confronti di Napolitano da parte di Berlusconi? Come ne parla ogni volta che parla di Napolitano? La rabbia forse non è corretto. Io disprezzo. Vedo in Berlusconi uno che ritiene che napoletano nella sua testa, anche come Oscar Luigi Scalfaro, sì, erano presidenti politicizzati e non abbastanza bipartisan, non abbastanza sopra le parti. E bisogna vedere che poi l'ha pure votato, l'ha pure rivotato Berlusconi. Sì, però credo che ha visto Napolitano come uno che in qualche modo fece parte di un intrigo internazionale. Io sono un giornalista, ma tu sei d'accordo su questo? Non prendo la propaganda ma... di nessuno, cioè, però sei d'accordo per essere chiaro, c'è una differenza fra quando Brunetta parla del complotto e quando Friedman documenta un intrigo. Però c'è stato o no questo Napolitano, ha partecipato a questo intrigo o no secondo te? Se si legge il libro si scoprirà che Napolitano ha fatto una telefonata molto strana, molto particolare, sì, durante il vertice di Cannes, sì, nel 2011 a Barroso, e dopo, sì, quello Barroso ha capito che Berlusconi sarà stato sostituito. Beh, si capisce che in parallelo, sì, con i tedeschi e francesi, sì, che hanno chiesto l'aiuto della Casa Bianca a far cadere Berlusconi, sì, che anche Napolitano era al telefono con Merkel, al telefono con Barroso. Io non lo chiamo un complotto, io chiamo un forte desiderio di sostituire Berlusconi. Ce lo volevano fare fuori, dai. Napolitano ha condiviso con Merkel e sta così. Ah, e beh, che Napolitano ha condiviso, insomma, l'ha voluto far fuori, tu non lo puoi dire. Francesi diciamo, e tedeschi anche, non volevano più. Francesi e tedeschi non volevano più il Berlusconi. E hanno trovato una sponda. E Napolitano era la parte domestica. Appunto. Lui ha chiamato Monti nel giugno 2011. Sì. Questo ho rivelato prima, ma sì, quello che il nuovo libro descrive, sì, è come la Casa Bianca l'ha vissuto. Come è stato visto. Come l'ha vissuto? Le segrete. Come l'ha vissuto? E quindi? Io leggo il libro, Carlo. Leggiamo il libro. Senti una cosa, sì, ma se dovesse diventare un film, Berlusconi, chi sarebbe interpretato? In effetti abbiamo firmato con la figlia di Sergio Leone, cioè, sì, la Raffaella Leone, sì, per fare il film. Ma chi sarà Berlusconi? Chi potrebbe interpretare meglio di tutti Berlusconi? No, in questo momento stiamo finendo il documentario. Ma per te, poi per te, faremo una fiction dopo. Ma secondo te chi veramente farete la fiction? Sì, faremo. C'è un accordo per fare fino a 12 puntate. Ecco, ma chi potrebbe fare l'attore che potrebbe interpretare Berlusconi? Chi potrebbe essere, ad esempio? Ah, io lascio agli italiani a scegliere. Vabbè, sei un tu che vorrei che il tuo preferito. Uno dei tuoi preferiti, che ne so. Chi potrebbe essere? Un attore? Guarda, dovrei riflettere. In questo momento sto cercando di giustamente fare le rivelazioni legate al libro, di cui abbiamo, diciamo, altri 5 ancora da emergere. Su Libia, su Bush, su Putin. Mamma mia che intrigo, cose, ragazzi. Io adesso vado a Londra, a New York, a Washington, sì, nei prossimi giorni, Washington, sì, e lì nella televisione americana avremo nuove rivelazioni. Senti, parla la zanzara, perché la televisione americana? Scusa, per il pubblico americano, ragione, il pubblico americano. Giusto. Senti, Alan, una cosa, Berlusconi ha detto meriterebbe 4 anni Napolitano. Cioè, a me mi hanno dato 3 anni. Non ho capito, 4 anni dove? Di carcere. Di carcere, lui per il io non ho mai sentito questo. Ma ieri l'ha detto. Ma dov'eri, l'ha scusa? Detto ieri, è per questo che Napolitano si è incazzato. E Napolitano si è incazzato per questo. Ha scritto quella lettera a Berlusconi, cioè a Berlusconi, cioè ha rivolto a Berlusconi dicendo che ha delle ossessioni patologiche e gli fa pietà, perché Berlusconi avrebbe detto, non ci mai sono, smentito però, mai smentito, che siccome a me mi hanno dato 3 anni eccetera eccetera, lui per quello che ha fatto, per il golpe, per il fatto di avermi diciamo così, io non commento questo, perché la mia regola è che questo non è un libro solo politico, ma anche un ritratto intimo dell'uomo. Ecco, ma lui quanto però è incazzato, se mi chiedi di Napolitano, io dico che Giorgio Napolitano ha smentito il mio libro, ha smentito dal Quirinale il fatto che lui aveva già contattato Mario Monti prima, sì, sì, e sì, quando Mario Monti era seduto accanto a me su Omnibus sulla 7, sì, e ha detto no Friedman non ha detto male, io ho risposto guardiamo il video. Dunque è stato smentito Napolitano. Abbiamo sconfessato il Presidente della Repubblica l'anno scorso. Senti, secondo le tue poi c'è la pubblicità, secondo quello che hai vissuto insieme a Berlusconi, secondo te con la Pascale si sposerà? Non sono Novella 2000, ragazzi. No, però ho conosciuto Francesca Pascale, ho conosciuto tutta la famiglia Berlusconi per 18 mesi. Sono appunto, stato, dico, per questo a Arcore, a Palazzo Grazioli, in Villa Certosa. Sui piani matrimoniali o meno, io non non sai niente. Credo che si sposino, francamente. Non credi che si sposeranno. Ma credo che sono insieme, sì. No, insieme lo sappiamo, cioè, sì. Però non credi che si sposeranno. Allora, c'è ma uno non che... sono l'esperto di queste cose. No, sai. Vabbè, però sai, hai vissuto... C'è una sezione del libro, per chi vuole, la parte più rosa, in cui Berlusconi spiega la sua definizione di amore, sì, quello sì, che sì. cerca in una donna ideale. Ma gliel'hai chiesto? Ma gliel'hai chiesto perché per un certo periodo, non so, magari adesso no, era così malato di femmine, cioè di donne, sì, proprio di sesso, diciamo. Gliel'hai chiesto o no? No, non gliel'hai chiesto. Abbiamo discusso il suo periodo da single, dopo la single, fine del secondo sì. matrimonio. Sì. Chi vuol sapere cosa ha detto? Devi no, vabbè, guardare il capitolo che si chiama A le donne. Ce l'ho davanti. Capitolo... No, però dimmi non cosa. Sono un santo, ha detto in varie occasioni con un sogghigno l'uomo della battuta d'oro. O anche è tutto come... dentro, anche la sua... discussioni su tutto o anche come grande, dentro il libro, ragazzi. È un grande venditore del suo Beh, libro, sì. Friedman è maestro in queste cose. No, ma se dico tutto su Zanzara che sento non dici niente, non hai detto niente, dai, su. Aspetta un attimo che ho altri due minuti, prima la pubblicità. 800 24 00 24, vai. Pubblicità. La Zanzara. Sì, questa è la Zanzara, 20:37, 800 24 00 24. È con noi il mitologico Alan Friedman, autore di My Way, Berlusconi si racconta a Friedman, pubblicato da Rizzoli. Io voglio dire una cosa, è un tomo enorme. Ma perché non fai quindi da Berlusconi oggi ormai? Ah, tu dici, ah, di Rizzoli, sì, certo, ormai di Berlusconi, cioè, ormai di Berlusconi, sai questa cosa, no? Di, certo. Io ho visto, non mi è sfuggito che non ti è sfuggito. Stavo pubblicando il libro, Berlusconi stava comprando Rizzoli, ma beh, non credo che ci sia un legame. Non c'è un legame, non c'è un legame. Senti, una domanda che secondo me, che mi è venuta in mente, magari una stronzata oggi, è questa. Secondo me uno che ha a che fare con Berlusconi, come hai detto te, per 18 mesi, no? Sì. Va a casa sua, frequenta la famiglia, frequenta... Mangia con lui. 39 giorni, diverse visite, esatto. Anche dei famosi pranzi di lunedì mi hanno invitato dentro. Ti ha invitato con Marina. Hai dormito pure? Hai dormito ad Arcole? Una notte. Oh. Beh, questa è la meraviglia. 18 mesi, una notte, perché era molto tardi. Abbiamo finito alle 3 di notte le interviste. E com'erano le lenzuola? Com'erano? Che? Normale. Lenzuola, normale, no, ma che normale, amico mio? Ma come fa a essere normale? Beh, lenzuola no, di lì. Non scendiamo le battute chips. Vogliamo no, altro, anzi, era per capire proprio le, no, le, appunto, le... normalissimo, come una vecchia tutto, bella, tutto, tutto normale. Cioè, ti sei alzato e che c'era la colazione pronta? Vabbè, sei... almeno. Cioè, ci sarà stato c'era uova strapazzate e bacon. Scramble eggs, quindi. Yes. Beh, da solo hai fatto colazione da solo? Beh, è la mia richiesta. Ah, tua richiesta. Beh, allora, sì. Ma una meraviglia. Scusami, assoluta, Alan, vedi? Ma c'era anche un americano, non c'è niente da fare. Mi piacciono i chocolate chip cookies. Mi piacciono le uova strapazzate. Sì, anch'io, però, una volta a settimana sento scramble eggs. Si vede anche, si vede, diciamo. Vabbè, che c'entra. Allora, grazie. È vero che devo dimagrire, è vero che parlo con questo maledetto accento, ma che sembra taglio olio italiani. Stupendo. È più forte di me. Spero di essere onesto, anche se l'accento è un po' buffo. Ma quello che c'entra, quello va benissimo, è una cosa radiofonicamente meravigliosa. Ma c'era Berlusconi pure a colazione quando ti sei svegliato da Arcore, no? Quel giorno no. Quelle signorine che giravano nude per casa. No, ma dai, ma no. Perché no? Perché non è possibile. Corriere della Sera, La Repubblica, diversi giornali sul tavolo. No, ah, quello, vabbè, i giornali, certo. Però è bello... Comunque, tu dici bene, per chi vuol veramente, scusa se vendo, sì, entrare dentro i cancelli di Arcore, sì, bisogna leggere questo libro e vabbè, si capisce. Adesso, questo non c'è dubbio. Però io, secondo me, tu ti sei innamorato di Berlusconi in un questi po'. 18 mesi. Un po' no, ti... io non mi innamoro dei soggetti dei miei libri. Ma un io po' cerco sì. di tenere il mio distacco come... Noi americani dobbiamo fare quando siamo però giornalisti. Però quante seri. Cose hai accettato di non dire per essere stato... No, non dico... no, niente. Ma come no, non è dai, così. Su. Non è così. Ma non è chiaro, così. È un libro che no, a Berlusconi... italiano. È, il problema è un libro qui. Che non danneggia Berlusconi. Guarda, dai, voi di Zanzara siete su Radio 24 e siete sofisticati. Noi siete sofisticati. Di alto livello, anche se le battute sono un po' noi colorite. No. Noi no. E spinte ogni tanto. Molto spinte. Allora, la verità è che... In Italia sembra difficile capire che un giornalista non è di destra o di sinistra, no, non è quello. Pro o con, non è di parte. Cioè noi dobbiamo tenere l'imparzialità, neutralità in tutto che facciamo. Ma va bene, una d'accordo. Persona può essere simpatico, certo Berlusconi è simpatico, ma questo non vuol dire... No, non so vabbè. Come dire. Io ho detto a Berlusconi, se vuoi una... social media, vi dico un tweet, quello che ho detto a Berlusconi, puoi citarmi. Dimmi. Io ho detto a Berlusconi, io non sono Marco Travaglio, ma non sono neanche Emilio Fede. Io sono Friedman. E lui? Vuol dire che non sono di parte. Ah, non sei né Travaglio né Fede. Hai messo insieme Travaglio e Fede. Per dare due estremi, sarà contento, diciamo. Sarà contento Travaglio. Insomma, di questo. Ma Marco è un bravo giornalista. Questo accostamento Fede, con il signor Fede. Non commentiamo. No, però Berlusca preferisce la stampa estera. Perché la Fede stampa? Non commentiamo? Non ho capito che c'ha. Beh, è uno che è stato al servizio di Berlusconi per tanti anni. Sì, ma non era veramente interessante per me in questo libro. Fede non è una figura rilevante. Beh, no, vabbè, è una figura così. Però ha creato. Diciamo marginale. Marginale. Senti, secondo me, secondo te, alla fine venderà il Milan, Berlusconi? No, credo che lui, anzi, lui vuole tenere la maggioranza, sì. E c'è anche una parte, di un, credo l'ultimo capitolo, in cui lui parla del suo futuro, il suo piano per Milan, e quello che ha dato, cioè, non vuole vendere, anche i suoi figli. Non vuole vendere la maggioranza del Milan, secondo te? Secondo te, al di là del libro, secondo te? Secondo me lui vuole tenere la maggioranza. Sì. Ottenere il capitale asiatico o medio orientale per... comprare nuovi giocatori, spendere 150 milioni su nuovi giocatori, investire nel merchandising, andare nei mercati. E quelli danno i soldi emergenti. Senza comandare, e quelli danno i soldi senza comandare gli asiatici. Loro comprano anche in Qatar e Dubai, in Asia, comprano per prestigio e per profittabilità, un investimento in un marchio. Per poi sfruttare il valore. Va bene, Alan, grazie, un abbraccio. Ciao, grazie, caro. Alan Friedman. Grazie a voi. Straordinario, ciao. Ciao, ciao. Da Napoli, vai Ciro, vai, vai. Fermi, fermi tutti. Poi Franco da Roma, Dario da Vicenza, Marco da Monza, vi voglio carichissimi per questo finale. Gente normale, ascoltatori, popolo, gente che sta per strada, gente che sta sul camion, sulla macchina. Fermo lì. Chiamami sul cellulare che adesso devo andare. Ma che ti chiamo? Aspetta un attimo. 45 scatta l'ora X. Prima di 45 non ti muovi da qua, se no mi incazzo. Messaggio allora al tassista che vi aspetta giù, tassista di Milano, Eco 93, aspettami per cortesia, grazie. Dimmi Ciro, dimmi, questo coglione se ne vuole andare. Non lo far muovere lì a Parenzo. No, purtroppo mi ricatta sempre. Mi ricama, mi ricatta, vai alla magistratura. Devo andare, Ciro, devo andare vai. Alla 7. Vai. Senti, Cruciani, io ti volevo esprimere la mia felicità per parlare un po' con te. Perché no, dai, amico italiano mio, però medio incazzato. Sì, la devo fare breve, ho capito. No, breve, però non slinguare, ma sai che non amo molto le. Sì, però bene. Dimmi, perché sei felice? Piccola, diciamo, diversione. Se puoi consigliare a Friedman, se cerca un attore che impersoni Berlusconi per la sua fiction, in un video di Fabi Fibra c'è proprio uno che è identico, preciso, uguale a Berlusconi. Vabbè, lo informeremo. Vabbè, Ciro, perché mi hai chiamato? Per dimmi sta cazzata, perché no? Volevo chiedere al buon Parenzo, che delle volte dispensa, diciamo, buonismo a tutta forza. Se magari riuscisse ad entrare un ladro in casa sua e stesse per fare qualcosina alla moglie o alla figlia, non eccolo so se qua, c'è, no, ancora. Però, allora cosa farebbe? Qua, cosa farebbe? Parenzo, no, ma ancora dire... questa stronzata, ma veramente incredibile. Ma stronzata, scusa, il classico esempio idiota. Il classico esempio idiota. Ma scusa, ma perché se entrassero a casa tua? Se a casa tua? Ma morirei dalla paura, proverei a fare qualunque cosa per difendere i miei cari. Cioè, non cominceresti a colpirti che ma non ho il porto d'armi, non l'ho fatto, metti che c'hai in mano una spranga, no? In mano un pezzo, un bastone. Non cominceresti a colpire fino all'impazzata quello che sta sul letto con tua moglie, magari la sta stuprando, per carità, non succederà. No, ma ho capito, ma è un'ipotesi, no? Cioè un'ipotesi. Ma l'ipotesi del cazzo. Ma un'ipotesi che riguarda. Guarda, questo cornuto che chiama per dire. Perché cornuto? Cornuto. Gli consiglio di tornare a casa, peraltro. Scusa, Ciro, ma ti ha chiamato cornuto? Ma è un cornuto, uno che fa un esempio simile. Ciro. Se capitasse Parenzo, a te, se è io un cornuto. Tu sei stronzo vero, eccolo te lo qua, dico con arriva. Tutto il cuore. Cioè, telefona, cioè, prima di tornare a casa telefona. Ma perché deve telefonare? Telefona, fidati. Ma perché? Ma veramente sei incredibile. Fidati. Cioè, gli stai dicendo no, io che non sua moglie si scopre no, qualcun altro? No, non dico niente. telefona prima di tornare a casa, avvisa sempre, dice amore guarda che sto tornando, ah meno male, Ciro, manca, vuoi rispondere questo, manca, a questa puttanata che dice Valenza? Un d'ora. Hai capito? Ah, io invece l'ho capito perché non ti fa il problema ora, io mo l'ho capito. Perché no, non si fa il problema? Perché? Non si fa il problema perché magari ci gode pure a vedere la moglie che viene rubata dall'altro. Ma vedi, capito? Che è stupido forte questo qui allora. Ma vedi questo imbecille, perché io non gli sto dicendo. Posso dirti? Ma ha ragione, ma come si chiama questo qua? Ma scusa Ciro, ma gli hai detto una cosa terribile. Ciro torna a casa tra 10 minuti, non ti preoccupare. No, voglio dire, ma gli hai detto che la moglie, no, lo tradisce. Non ho detto questo. Ma ho come detto, no? Ho detto avvisa prima di tornare a casa. Avvisa. Vabbè, ma non abbiamo, amore, non è che siamo scemi qua. Butta la pasta. Abbiamo capito. Dice quanto manca a venire. Ciro, per favore, vuoi rispondere a questo coglione? Un quarto d'ora. Ciro, ma è un coglione, è lui che ha fatto un esempio stupido. Guarda, io mi sono fermato sull'autostrada e sono tranquillo che arrivo a casa a qualsiasi ora. Quanto torni a casa? Capito? Quando torni a casa? Tu ce l'hai i problemi, ce li hai. Tra quanto torni a casa? Telefona prima, fidati di zio. Fidati di zio, chiama a casa. Non c'ho problemi, te lo dico io. Guarda, non c'ho problemi. Ciro voleva fare l'armadio, controlla dappertutto. Ciro voleva fare un paragone che a te non è piaciuto. Paragone e fai per quello, certo, che sono arrabbiato. Non sa cosa rispondere, se il coglione, tu vedi, capito? Se tu solo il bravo quando non gli tocchi il tuo. Per questo mi sono arrabbiato, perché ho detto più volte, uno, che non ho mai fatto il porto d'armi e mai lo farò perché non sarei in grado di sparare. Secondo, mi difendo. Coglione, informati. Ecco, l'idiota. Se hai il porto d'armi, questo, se, sì, hai l'arma, se hai l'arma e non hai il porto d'armi, passi cazzi superiori a quelli che ti vero, passano per la testa a te in questo momento. È una cosa lecita, coglione. Quello, detenere le armi senza denunciarle casa, è un reato. Appunto, senza per, non c'hai bisogno se hai di porto una, d'armi. Però, sono un tiratore del poligono da 20 anni, se hai in casa, se hai in casa un'arma, sì, denunciata, ma non hai il porto d'armi e spari, passi dei guai, idiota. Telefona, no, prima di tornare a casa ora. Bene, perché guarda che sono ancora là. Viene fatta proprio telefona, per protezione della casa. No, ma ti conviene, ti vabbè, Ciro, ti scusami, conviene però, chiamare, però deve essere fatta. Pronto? Tu manca puoi un quarto d'ora, tranquilla, libero. Aspetta, tutto. Ma perché gli devi dare del cornuto, no, a Ciro? Cornuto. Gli stai dando del cornuto. No, ho detto di avvisare che magari, ma sai, ho capito, la, ma pasta, non sia, la pasta si scuoce. Ma non siamo nati ieri, non siamo nati ieri. Si raffredda la minestra. Stai dando del cornuto a questo ascoltatore. Cioè stai dicendo che la moglie sta scopando con un altro mentre lui. Ma non mi permetterei mai, no, carità. Lo stai dicendo. Forse lui andrei a casa, ma non mi permetterei mentre mai. Mentre lui ha detto una cosa molto semplice, no, Ciro. Ha detto una stupidaggine. No, ha detto che si può detenere un'arma, giusto, Ciro? Certo. Ma si può detenere un'arma, se si deve denunciare l'arma. Ma lui ha detto se questo. Tu hai spari con un'arma denunciata, ma non hai il porto d'armi, no, passi dei guai, e questo è un salame perché non lo sa. Ciro, com'è la situazione? Coglione, se spari e c'hai il porto d'armi, li passi uguale i guai, coglione. Non hai capito. Informati. Il caso che tu hai fatto prima è sbagliato. Perché? Perché tu hai detto, se io ho un'arma e l'ho denunciata, posso fare. Non è così, perché se tu hai un'arma, ma non hai il porto d'armi, ma hai solo denunciato il fatto che ce l'hai in casa, Cruciani, e spari. Però io non parlo con i salami e me ne vado, perché sei un salame. Cruciani, dimmi. Scusa, mi fai parlare un po' con te, che questo è un idiota, ma come lo tenete lì? Io non lo so. Guarda. Allora dimmi, Ciro, tu hai un'arma ma non hai il porto d'armi? Com'è la storia? Allora io vorrei spiegare al coglione, no? Sì. Se tu vai adesso, se n'è andato questo imbecille, chiamatemelo sul cellulare, dai. Vuoi spiegare? Allora, io vorrei capire dal coglione, se tu vai da una parte, prendi un'arma e fai la detenzione in casa, no? Che la fai per, ma non credo che puoi per proteggere la casa? Ma non credo che dopo puoi sparare, se non hai il porto d'armi. Ma secondo te, se chiedi la detenzione di un'arma in casa, cosa ti serve l'arma in casa? Allora, mi scrivono autorevoli personaggi, ha ragione quello che sta al telefono, non serve ancora il porto d'armi, basta denuncia. Ancora qui è. No, Parenzo, inutile che ti allontani, ti sei allontanato perché eri schifato. Ma perché è coglione, perciò se ne va, perché non sa fare una discussione, come, capito? No? Capisce, quando lo tocchi come su quello che non sa dire, il coglione va via. No, e ti ha detto che sei un cornuto, e ti ha detto che sei un cornuto. Io lo ringrazio, ognuno sei grazie suoi, si dice a Napoli. Ah, vabbè, dove andiamo? Franco da Roma, dai, Franco. Ah, buonasera, finalmente riesco a parlare con voi. Dimmi, dopo un Franco, po' di tempo che vi seguo. Allora, intanto buonasera a tutti, agli ascoltatori, a voi. Siamo quasi in conclusione, però vai Franco, vai. Sì, no, volevo un attimo dire delle cose per quanto riguarda l'affermazione che ha detto il signor Roberto per quanto riguarda Scialpi. Sì, il marito di Scialpi, allora, sì. Il marito di Scialpi, sì. Volevo dire che lui, io, siccome stavo in sala operatoria, quindi Scialpi... Ma quando? Adesso? Certo, l'altro ieri è successo. Ah, l'altro ieri, sì, adesso, in questi giorni, sì. In questi giorni, sì, è stato dimesso ieri, signor sì. Salvi. Poi eventualmente potrebbe chiedere anche a lui, perché è una persona squisita e eccezionale. Ma è vero lui, quello che ha raccontato? No, Roberto? Assolutamente no, assolutamente no. Infatti, quando è uscito il signor Roberto e il signor Sciarpi dalla sala operatoria, noi abbiamo dovuto dire che era tutto apposta a una persona che stava con lui, una donna, non so se era una zia, una parente. E lei ha chiamato il signor Roberto mettendolo a corrente di questa situazione. Quindi lui non c'era lì, signor Roberto. Ma lui sta dicendo, Roberto? Che quando è arrivato non ha potuto entrare. Anche questo c'è un altro punto, no? Perché lui ha detto lo ha accompagnato in sala, non c'era lui, non c'era. Quindi questa signora ha informato il signor Roberto che era andata tutto a posto. E perché ha fatto sto casino allora, secondo te? E non lo so, forse per mettersi per creare ancora un po' di casino per quanto riguarda i gay che vengono discriminati. Cioè, e tu dici si è voluto fare questo, pubblicità, ha voluto fare casino per i gay. Anche perché questo. Ma tu che ruolo hai? Scusami. Io sto in sala, Sei un infermiere della sala operatoria? Non mi posso esporre, infatti manco il nome, è vero. Vabbè, comunque ha fatto casini inutilmente, secondo te? Ha fatto casini inutilmente, anche ho detto. Cioè non è vero che è stato tenuto fuori perché è sconosciuto, no, perché non è... Un momento, poi c'è ancora un'altra storia. La signora ha detto vai con calma, tranquillo, non ti preoccupare. Quindi poi siccome ci sono degli orari che devono essere rispettati... Sì. Comunque non c'è stata, la sostanza è questa, non c'è stata nessuna discriminazione. Assolutamente no. Ok, concludiamo così, poi benissimo, approfondiamo domani o nei prossimi giorni quello che è. Dobbiamo chiudere per forza. Gli orari sono gli orari, Franco. Come gli orari ce l'avete voi in ospedale, ce l'abbiamo pure noi qua. A domani 18:30, ciao. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.